bed defeats, no victories, you win the battle. But like a satchel, like a lighter. Look up, the government's on trip, they're going local. You cannot speak, they need the channel on the vocal. Intelligence, be telling gents, they know all, no, no. I'm fighting like a raging toro. Stop looking for your next messiah. Fooled by the ones who think they know your ultimate desire. Cash games, square frames, we've not playing in this game. Fire, can't stop looking for your next messiah. Fooled by the ones who think they know your ultimate desire. Cash games, square frames, we've not playing in this game. Now it's getting a little tipsy. You stone like Sly trying to fly, I feel like Missy. Me coming out, remove all doubt, in time you will see. Move from the mind into the fizzy. Let go, they know your every move, your name and number. They chase the glitter with the gold and you will suffer. For your next messiah. Fooled by the ones who think they know your ultimate desire. Cash games, square frames, be not playing in this game. Fire, can't stop looking for your next messiah. Fooled by the ones who think they know your ultimate desire. Cash games, square frames, be not playing in this game. We'll be right back. trip, crazy like a man, feeding like a hype for the man phone style. Slow smoke from the pipe, bliss the mind of the one and only man phone prowler. Wild wolf hunting full moon howler. Slow walking straight, talking mind state hazy. Best to leave my path when I start to get crazy. Flexing, sweating, wear a cool feel. Waiting for the day when the shit goes down. You see, I'm not a gangster, but still I pack a gun. Consider law breaking menace. Like a tiger, I creep like a spider. The low down, hard down, dirty street fighter. I said to break him up hard and break him up, pick him up. The street fighter, fighter taking over your heart. I said to break him up hard and break him up, pick him up. The street fighter, fighter taking over your heart. No more talk. And check your catalog. I stay sane, keep my feet on steady ground. I see the world through blank pages, lost and newly found. I struggle every day to keep this nigga safe and sound. Cause fascist motherfuckers think they kings but got no crown. But yo, it's okay. Take it day by day. Recession got you laid off and you got bills to pay. Already had your first kid, the second on its way. I heard you working two jobs and making under 10K. I stand here and face a jury of my peers. I hustle or survive another day in this career. I'm leaving all you baffled like headlights to a deer. Cause when I speak my mind, I know you hear me loud and clear. Sing it. Well, it's okay, I take it day by day. I paid the rent for June and I owe the one for May. My girlfriend done left me cause I cheated in every way, and the country that I live in don't encourage me to stay. But yo, I stand here before a jury of my peers while I be bending corners, rock MCs get understeer. I heard of suits that rob you walk free and disappear, and you get caught smoking a blunt and get convicted for a year. Now check it, it's okay, I take it day by day. I pay the rent for June and I owe the one for May. My ex, she got a new man and a kid is on the way. My bank, they got me doing time and mortgage is my crime. But yo, I stand here in a cell with all my gear. I struggle to survive another day in this career. I keep my eyes open, sharpen up my ears, and keep my head up high because my mama taught me not to fear. Sing it. BNC. It's been a long time since I spoke from the continentului vechi, mai precis Nord Balcan, Sud-Est, zonă de Rizero. 2012, timpul trece, nu vă îmbătați copii, oameni cu apă rece. Fără dușman suntem feriți de catastrofe, binecuvântat e locul cu muzică și cu strofe. Asta mi-e cultura, verifică evantaiul, ne face dreptate cu cavalul și cu naiul care bai fel. Jumate încoace ne-am pus pe șine și sincer drumul a fost greu numai de bine. Și s-a domărit încet mișcarea. Acum s-ascultă sub în toată țara. Salut, suntem oameni din dreapta Europei, sunt sub Carpat. Am antebrațele mari de la Cățărea și în timp s-a cimentat un stil nou, provințător, mulțumim. Underground folklore, underground folklore. Usato questo palco, non so se in questi giorni è già stato usato, no? Sì, vabbè, io l'ultima volta che l'ho usato è stato nel dicembre 2020. Vi ricordate che abbiamo fatto il premio Dubito privé, e quindi eravamo, però era stata molto bella, insomma. E qua il premio Dubito ancora per il lancio del nuovo bando e per presentare il libro Rime di Pietra. Rime di Pietra sui divieti, 10 anni di premio Dubito. Oggi suoneranno 4 band, no? Ma vieni su con me Paolo, dai, veramente che chiacchieriamo un attimo. Allora, suoneranno 4 band, ma le presentiamo un po' per volta. Intanto un applauso a Roberto e Mad Sound System, che è un po' come lo Slam Mix invernale, la finale del premio Dubito, farà ciò che fa Pablito il Drito, gli intermezzi. Farà la presenza costante tra un'esibizione e l'altra e poi un DJ set finale. Oggi ci saranno una serie di amici del premio Dubito, che come diceva Marco è la 10ª edizione e ha creato davvero un bel movimento in tutta Italia. È un piacere ospitare alcuni dei progetti che hanno partecipato in questi anni. Il primo in realtà non è proprio un progetto che ha partecipato, ma che abbiamo intercettato, perché negli anni abbiamo portato Alberto Dubito nelle scuole, per strada, ovunque, e ci è capitato in un laboratorio, in una scuola col collettivo Tempi Diversi, di conoscere questa ragazza che già avevamo capito che scriveva bene, perché facciamo sempre anche degli esercizi di scrittura oppure chiediamo di leggere quello che hanno, e lei ci aveva colpito e da lì in poi l'abbiamo conosciuta. E è un piacere averla qui, perché davvero questa sera abbiamo fatto, prima di Slam X, una presentazione di questo bando che ricordiamo è aperto fino al 31 agosto e per partecipare basta mandare 3 brani e i testi al premio Dubito. La giuria ascolta e i 4 finalisti si sfidano qua su questo palco ogni dicembre durante il festival Slam X. Quindi, ringraziando Conchette e voi che siete qua, presentiamo la prima artista. di questa sera, che viene da Niguarda, si sta facendo conoscere con i suoi primi singoli, davvero forte, ed è un piacere ospitarla al Cox. Yara Key. Ciao a tutti, come vedete... Grazie. Oggi ho un problema alle mani, ma non è importante. La musica mi aiuta a risolvere anche questi, quindi vai, vi faccio sentire un po' di pezzi. Ok, iniziamo con Fatti di meno. Dai, vai, let's go. Ehi, ehi. La voce ce l'avete però, eh? Yara Key, toccato cose sporche come quelle che dici. Cerco la mia anima pesa 13 kg. Toccato cose sporche come quelle che dici. Cerco la mia anima pesa 13 kg. La tipa apre le gambe, io faccio sulle canne. Ho il modo per rilassarmi, da venderle a fumarle. Non dirlo a mia madre, sai che dorme male. Si alza dal letto, vede Saturno siderale. La speranza è respirare, non ci riesco, l'ho paccato. Una catwoman da Roma, che stile. Mi fotografa in posa in cortile, Bobby's è la nonna. Io maga vuoi fatine, io maga vuoi fatine. Fatti di meno, che ti devo dire? Urlava fatti coraggio, ma ero una bimba in cortile. Fatti di meno, che ti devo dire? Urlava fatti coraggio, ma ero una bimba in cortile. Fatti di meno, che ti devo dire? Urlava fatti coraggio, ma ero una bimba in cortile. Fatti di meno, che ti devo dire? Urlava fatti coraggio, ma ero una bimba in cortile. Urlava fatti coraggio, ma ero una bimba in cortile. Lascia stare i loro modi, non sono mica mia amica. Sono una bambina magica, ancora non ci vuoi credere che sono qui. Sono una bambina magica, ancora non ci vuoi credere che sono qui. Vengo dal fango, via Mafucci 24. Fatto più traslochi che altro. Vengo dal fango, via Mafucci 24. Non farò altro finché non mi basto. Fatti di meno a me che ho fatto il viaggio dell'eroe. Te lo sto raccontando, raccomandata dal fato. Raccontando che faccio addio randaggio e disagio. Porto con me ciò che ho imparato. Fatti da di voi. Meno, che ti devo dire? Urlava fatti coraggio, ma ero una bimba in cortile. Fatti di meno, che ti devo dire? Urlavi fatti coraggio, ma ero una bimba in cortile. Fatti di meno, che ti devo dire? Urlava fatti coraggio, ma ero una bimba in cortile. Fatti di meno, che ti devo dire? Urlava fatti coraggio, ma ero una bimba in cortile. Urlava fatti coraggio, ma ero una bimba in cortile. Lascia stare i loro modi, non sono mica. La vita con, cioè, senza mani è complicatissima, perché capisci che la voce la devi usare tanto per farti capire, tanto in generale, è complicato. Infatti ho pensato di diventare di moda con queste cose, dicono che sembro un po' una donna cyborg, e infatti ci vuole un po' di forza per affrontare le cose che mi sono capitate quest'anno. Ma poi fai i pezzi, capisci che non hai capito come dovevi affrontare le cose, ma ti ascolti il pezzo e capisci come affrontarle, tipo con Piena di energia, dal mio ultimo singolo, raga. Piena di energia vuol dire proprio sto qui, canto coi crampi, quindi vai. Let's go, DJ. Yara Key. Mi vogliono tenere giù, ma sono piena di energia. Mi vogliono tenere giù, giù, giù, giù, giù, giù. Mi vogliono tenere giù, ma sono piena di energia. Se penso come una piuma, allora ce ne andremo via. Oh, e sarà per risolvere certi guai. Come fai te? Italo-brasiliana che sa ballare la samba con la lingua, quegli sbagli che ho fatto mi fa male, rimpiazzo, ma non tornerò piatta. Mi vuoi stringere il collo come ad un cane da guardia. Ti lamenti dei piatti, ma non lavi la faccia. Non è nei programmi tornare in piazza, come non lo è per i grammi tornare in tasca. Oh, sai che mi offendo quando non mi calcoli proprio. Sto passando le giornate chiusa qua. Il problema è nuovo e sarò io a risolverlo se ci farà la guerra per la libertà. Giù, giù, giù! Mi vogliono tenere giù, ma sono piena di energia. Se penso come una piuma, allora ci andremo via. Da una ragazzina non ho risposto perché era della famiglia. Il giorno dopo penso a me due anni prima. Fortuna che sono cambiata così tanto. Imparo che il silenzio è come una firma. Ma io solo seminato e verranno a chiedermi il grano. Dicono un ricco dipende dal suo schiavo. E lui è molto per terra, lo so, passato. Ehi, ho passato cose a cui sono passata sopra. Ho un passato pesante che si ripresenta ancora. Prendo per le palle questo diavolo come giù, mi voglio tenere giù, ma sono piena di energia. Se penso come una piuma, allora ci andremo via. E sarà per risolvere certi guai. Come fai te? Sai che salirò, alzerò le mani per abbracciarti forte poi. Per se non dovevo andare tanto. Come fa? Giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù. Comunque in tutta questa disperazione ho capito che giù giù giù non si sta così male. Perché appunto, cioè, poi queste canzoni mi fanno sorridere, mi danno il modo di essere me stessa. L'altro giorno pensavo che alla fine la musica mi aiuta a dare il ritmo che voglio alla mia vita. Non posso solitamente dire, oh muoviti, vai allo stesso passo in cui vado io. Invece con la musica posso farlo. E posso dire, vai Yara, scegli tu. Ho iniziato a capire questa cosa nel periodo in cui ho scritto Spara, che è poi il primo pezzo che ho pubblicato dopo tanto tempo. Comunque che bello, sono felice che siate qui, tantissimo. Proprio, no, non mi fanno male le braccia, non mi fanno male le braccia. E quindi Spara, ho detto pubblichiamola, già dura poco, ma mi piace da morire e niente. È questa qua, chi la conosce la canti, su. Voglio una chance, voglio una chance. Perdo, lascio la città. Perdo la c'è che lascia questo odore di strada. Sembra quasi di casa, solo a casa che penso. Sole attento e sole attende che splendo. Vi vedo vicini, ho più coraggio di questi cecchini. Più coraggio la mia amica 20 con due bambini. Ogni uomo sembra buono prima di diventare un padre, diventare un cane. Seguo l'odore delle mie palpa. Qualcuno spara e tutto dentro la mia testa. Porca puttana. Qualcuno spara tutto dentro la mia testa, porca puttana. Ehi, probabilmente qualcosa è andato storto. Hai fatto credito al mondo, non c'ho credito pronto. Tu sai cosa mi compri, mi sei bene una cifra. Fumo pazienza con dita, la scarpetta con le dita. La scarpetta di cristallo e la scarpetta di cristallo è diventato un orologio. Spassa chi li compra oro. Si aggira per il blocco dentro un bosco agli occhi rossi per il cloro. Per il cloro. Qualcuno spara tutto dentro la mia testa, porca puttana. Bam. Qualcuno spara tutto dentro la mia testa, porca puttana. Bam. Qualcuno spara tutto dentro la mia testa, porca puttana. Bam. Qualcuno spara tutto dentro la mia testa, porca puttana. Yara, che alla fine abbiamo smesso di spararci, perché basta, perché c'è bisogno di tantissima pace, soprattutto per scrivere, soprattutto per vivere, per respirare. Se non c'è pace, poi è come questo fumo qua, non ci vedi più niente e pensi che le persone fuori non esistano perché non le vedi. E in mezzo a tutto questo ho scritto 7 giorni di stress. Allora, 7 giorni di stress è un pezzo importante perché darà il nome al mio prossimo progetto, in cui ci sto mettendo tutto. È lunga, perché è lunga, ma ce la sto mettendo tutta. E ve lo racconto. Dai. Non conosce il barrio e nessuna scorciatoia. Sperando che passi, cerco una finestra sul mare per calmarmi. 7 giorni di stress, 7 notti senza dormire. Busseranno alla mia porta, io gli dovrò aprire. Apri il lago, non tengo modo. 7 giorni di stress, 7 notti senza dormire. Busseranno alla mia porta, io gli dovrò aprire. Apri il lago, non tengo modo. Delle necessità che non mi stanno in mano, compro la soluzione, non è gratis. Sto facendo piani, sto facendo piano, senza ferro in mano. Se tiri troppo ti strappi e ti trovi tra i rovi. Poi ti succede come me, come noi, affascinati da una luce che non c'è. Affacciati piano potresti cadere tra quelle coperte di lacrime. 7 giorni di stress, 7 notti senza dormire. Busseranno alla mia porta, io li dovrò aprire. Apri il logo, non tengo modo. 7 giorni di stress, 7 notti senza dormire. Busseranno alla mia porta, io gli dovrò aprire. Apri il logo, non tengo modo. Sono al piano terra con la sofferenza di chi non dice, con la punta di una matita che scrive. Questi giorni sembra che non abbiano più fine. Ti dico i cazzi miei per dare la vibra o cosa. Pensi che ci sia sotto la pelle di sta tipa stilosa. I miei sbatti mi han fatto così. Errori che diventano pregi. Ha voglia di aiutare, non mi dicono più grazie né prego. Ora sì che si spiegano. 7 notti di gelo, 7 giorni di stress, 7 notti senza dormire. Busseranno alla mia porta, io gli dovrò aprire. Apri il logo, non tengo modo. 7 giorni di stress, 7 notti senza dormire. Busseranno alla mia porta, io gli dovrò aprire. Apri il logo, non tengo modo. Wow. Apri il logo. Apri il logo, non tengo modo. In portoghese vuol dire apri velocemente la porta e io rispondo non ho modo di farlo. Quindi lo stress mi bussa, io non so come aprirgli, ma dovrò fare così, far sì che sia così. Ok. Adesso sembra una storia tanto drammatica, però in realtà non è proprio così. Infatti l'ultimo pezzo sarà Yara chi comincia, e qui mettiamo l'inizio e la fine. Mettiamo fine a tutta questa pesantezza, e l'inizio della scoperta di quello che posso essere, di quello che sono. Quindi energia, gioia e amore. Della mia vita, mia mamma faticata con la mente ancora incinta tra farina e bovisano. Se tanta fatica essere cacciati dalla stessa famiglia. E ora comincia, raccontami le storie che piacciono a me. Eravamo in 4 apparecchio per 3. Non sapevamo dove andare, come sarebbe andata. Mentre sorridi, incrociamo le dita. Senza niente addosso, sei leggera in salita. Sei leggera in salita. Raccontami le storie che piacciono a me. Per te, raccontami le storie che piacciono a me. Era come incontro apparecchio. Non sembra che sappia dove vada, ma comincia piede sulle strisce pedonali. Penso chissà se il cielo stasera. 5 punti tatuati sui polsi. Uno pa, uno ma, uno nick, uno guy, uno ma. Uno pa, uno ma, uno nick, uno guy, uno ma. E ricordo che nel secondo palazzo della mia vita c'era un papà faticato, non avevo una lira. Tra lavoro e famiglia, non so quanta fatica provarsi a fare i conti con la propria vita. Raccontami le storie che piacciono a me. Eravamo in quattro apparecchio per tre. Eravamo in quattro apparecchio per tre. Come sarebbe andata? Mentre sorridi, incrociamo le dita. Senza niente addosso, sei leggera in salita. Sei leggera in salita. Raccontami le storie che piacciono a me. Eravamo in quattro apparecchio per tre. Raccontami le storie che piacciono a me. Eravamo in quattro apparecchio. Non sembra che sappia dove vada, ma comincia a capire qual è la sua strada. Dimmi ci sei che io ci sono già. Dimmi ci sei che io ci sono già. E ora chi comincia? E ora chi comincia? E ora chi comincia? E ora chi comincia? Grazie. Divertitevi, io mi sono divertita. Grazie per l'ascolto. Presentazione del premio Dubito, decima edizione, ancora un po' di casino per gli Arachi. Adesso, prima del prossimo ospite, ascoltiamo una poesia di Alberto Dubito, letta da Dargen D'Amico. Molti di voi l'avranno sentita già su YouTube, magari. Dargen aveva letto questa poesia, è un amico del premio Dubito che è qui in sala, che poi si farà vivo probabilmente. Ha aggiunto una base di sua produzione. Questo ragazzo, tra l'altro, ha vinto il premio Dubito sezione video, la seconda edizione. Però non vi dico chi è, lo diremo casomai dopo. Quindi ascoltiamo questa poesia e dopodiché sul palco sarà la volta di un cantautore bravissimo, ma che presento brevemente dopo. Prima ascoltiamo la poesia di Dubito letta da Darge. Roma, col bene che ti voglio, sciogli luglio. Il rumore del treno sulle mie poche ore di sonno. Andiamo a Rimini tristi e facciamoci rubare tutto, anche le otturazioni e i denti, e viviamo per sempre, poveri e sorridenti. Siamo quelli che bevono vodka calda fuori dalle discoteche in riva al mare, distesi sugli zaini pieni di roba sporca e salata. A Firenze mi perdo in un ex manicomio per trovare una dancehall e finiamo in Campo Marte a dormire tra i crateri. Scolo il mio luglio disteso sotto l'ombra di Giordano Bruno, mentre fumo l'agosto che verrà. Leggo Salt e mi convinco della pazzia umana. Leggo su un muro al Belzebuc, nel quartiere di San Lorenzo, che la mia gente non ha certo un nome. E la mia gente non ha certo un nome. Non si trova sui libri di storia, a volte perduta, a volte arrabbiata, o allegra, o sola, o solamente ubriaca. E mi schifo scoprendo essere una citazione ai Modena City, eccetera. E magari mi trasferisco a Caput Mundi per scrivere dialoghi in fiction del cazzo e campare di scrittura disadattata. E magari mi trasferisco in un palazzone occupato vicino all'ESC e torno a vivere malamente di poesia triste e patetica. Torno a dormire in spiaggia, come quando avevo 15 anni, a svegliarsi con la bocca impastata della domenica mattina di mercoledì e la lingua costellata di granelli di sabbia e solo ettari di acqua salata da bere, con un cielo che sembra un enorme coperchio per questo mondo sotto pressione. Torno a fare festa sulla spiaggia, a pestare la sabbia a piedi nudi e a salire sopra al bus navetta mentre la macchina dei carabinieri accosta per noi, a noi che abbiamo le mutande piene. E stormi di gabbiani che ridono sinistri tra le orge di palazzoni nel centro di Roma. E pattuglie a ogni angolo. Ti dico che mi manca lo scirocco dei tuoi sospiri. Tratto da Eravamo, giovani stranieri. Vuol dire? È Marco, è lui che ha fatto questo lavoro bellissimo. Ci tiene a dirlo ancora in una fase embrionale, ma lo sentiremo anche definitivamente, spero prestissimo. E adesso qui a questa presentazione del premio Dubito, la volta di un ospite che è davvero un piacere avere qui sul palco del Cox. È un poeta, un rapper, un cantautore, non si capisce bene, un po' tutte queste cose. Viene dal sud della Sicilia, da Ragusa, Carlo Corallo. Ah, yeah. Corallo, Murubutu, tripla X, fila. Questa è la storia di Antonio. Cavalletto di legno sta fermo al centro della piazza e dà sostegno al disegno del genio sempre a testa bassa nella folla che si ammassa tra i quartieri a Gualtieri e che bagna i piedi fra i canneti agli estremi della campagna. Pare sia stato bambino su Azzurigo, ha il torso avvolto in un cappotto rotto, il volto malnutrito, in più era chitico nel corpo, goffo al collo, ha un grosso gozzo, corrono i bimbi del posto quando dà il buongiorno mattutino, dicono un bracciante pro tempore con voce tremante, mani ferme, trovi il suo tramite nelle tempere tratte da piante e terre, ma il pestello dal pastello un punto debole, il pennello per piedi il suo pannello e tela di Penelope. La gente lo osservava da muri e vetri di casa, oltre gli uliveti e la ghiaia. Fa riversi di lupi, cervi, gufi e lepri. Adottava i movimenti dei muli neri nell'aria, tra i mulinelli nell'aria e la via amara dei monti rimasti ai margini. Se il mondo li prende per matti e solo da morti li rende martiri di fatti, lui ripassa i disegni e quei ritratti da sentimenti a una città con i sentimenti ritratti, fino all'attimo in quel cerchio si chiude, filtra la luce sui passanti attratti dai quadri fatti con le dita sue. Istinto diabolico in un dipinto bucolico, la firma di un anonimo Antonio Ligabue. Con quegli occhi pieni di problemi e di guai e quei modi seri che non cambierai. Si alza il vento su di te ma non te ne andrai. Cerchi un colore che porti altrove ma non lo trovi mai. Ciao a tutti, come state? Io sono Carlo Corallo, sono un rapper cantautorale e insomma sono stato onorato dall'invito di Paolo a questa serata che celebra Alberto Dubito e proprio per questa causa ho deciso di rivisitare i miei pezzi in un modo più affine alla slam poetry, comunque alla poesia, a questo tipo anche di forma rappata. E quindi il prossimo pezzo che andrò a fare è un tributo a un classico della canzone italiana. Maestro, può mandare la base. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Ehi, nell'agone delle ore di punta, la piazza in stazione ulula al rumore delle ruote dei pullman, l'asfalto marrone pullula di persone in tuta ed occhiali da sole, dal settentrione fino alla Puglia, Salvatore alla passione del mondo, lo stesso nome del nonno ed il sogno di essere un giornalista, svanito il giorno in cui si è detto si realizza, poi ha pensato si realista, accetta questa vita da guida turistica, mostra che è in visita una lista di usi e costumi più gli altri che gli uni, vista la mole ampissima di luci sopra i corpi anneriti, dagli arenili, le spiagge dorate o i lidi cosparsi di sassi lividi, la vide lì alla fine di giugno, coperta da un trucco fine, comparire tra le prime file del gruppo, e lei avrebbe atteso la fine del turno per chiedergli di sentire il suo tono solare anche in un locale notturno, opera d'arte nuova, non come quelle per cui una guida spesso si abitua a fare la coda, ma lui la rifarebbe ancora per vederle fare la coda prima che prema sopra la sua coda canalogica. Se è vero che ogni cosa ha la sua logica, solo una scottatura porterà a trattarla come una scultura, amarla senza toccarne la pelle nuda, ma il sole non cala più ed è sopra un velluto blu che non fa paura. Ehi, hey, che non fa paura. Ah. Ah. Tutti insieme. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Grazie. Ragazzi, ragazzi, che bello andare ai concerti. Senza inutili retoriche, però voglio dirvi che questo periodo me ha bloccato del tutto la penna e quindi ho impiegato tantissimo tempo per scrivere 11 canzoni che sono uscite da poco in un album che si chiama Quando le canzoni finiscono. Non so se l'avete ascoltato. Grazie, grazie. Allora, per il prossimo pezzo vorrei leggervi una cosa, però il leggio è scomparso. Maestro del leggio, cosa sono c'è? Ah, si è mimetizzato col muro, guardate. può mandare una luce dalla regia, gentilmente. Allora, parlavamo del 2020. Nel 2020 mi sentivo bloccato. Per un periodo sono tornato in Sicilia e mi sentivo vicino all'ispirazione, ma distante dai mezzi per creare arte. E quindi ho scritto una, tra virgolette, poesia al riguardo. Si chiama Casal Pusterlengo 2020. Bel nome, lo so. Ve la faccio sentire. Io ho un genere tra quelli possibili in natura, un'età tra quelle a cui l'uomo può arrivare. In una città frequento un'università tra quelle fondate sul pianeta Terra e ancora in attività. Ho un nome tra quelli comunemente scelti, senza H finale, K al posto della C o J accostata alla A. È una professione che avvicina alle persone, a volte, altre lascia come fuori in stazione, di luoghi balneari fuori stagione. Per questa ragione amo Casal Pusterlengo, perché tutto sembrava fermo, anche il vento, e non era successo nulla di rilevante per tutto questo tempo, esclusa una volta in cui è passato Napoleone. I conigli selvatici, in maggior numero rispetto ai gatti randagi, esprimono il disinteresse e un'espansione urbanistica. Al pari l'assenza in palestra e dall'estetista circoscrive alla nicchia la vita di ogni mia fatica artistica. Ci vedevamo lì tutti i giorni. Se non potevo, uscivamo solo il venerdì, come la musica di oggi. Vogliosi di passaggi avventurosi tra i paraggi incolti, ma incrociavamo giusto campi di ortaggi agrodolci. E io che cercavo luoghi simili a un dipinto, trovavo luoghi opposti alle foto degli sfondi di Windows, coi piedi piantati nei prati padani, comunque molto meno verdi di come rappresentati dal libro di geografia delle elementari. Con l'erba troppo alta per stirarsi e troppo bassa per fare l'amore, chissà che potrebbe ispirarsi facendo due passi in una zona con questo nome e con delle campagne così anonime. Le canzoni non retoriche sono come una partita di tabù. Devi far capire agli altri cosa intendi senza dirlo tu, soprattutto se sei alla fine della canzone e non hai più tempo per posporre l'argomento clou. Ora mio padre, carente di calcio, come un dente marcio, attende maggio, per sapere se il campionato verrà assegnato, se c'è un ripescaggio. Ora mia nonna si sente chiusa come su un'astronave, dice che gli inquilini accanto spesso cantano l'inno nazionale, ma non lo sente sempre, persa tra mille faccende da fare con le mani incastonate nell'impasto madre. Ora mi pare quel luogo ci manchi un sacco, come ai detenuti chi sta fuori e dai fumatori il tabacco, il tuo esprimere scherzando di fare le valigie perché di rado chi scrive va a dormire prima delle quattro. Dici che il canto, per così dire, al massimo delle aspettative, porta una bella auto, un bel computer e qualche parte in TV. Al contrario, avrò un'auto che parte dopo 10 minuti, un computer che parte dopo 10 minuti, ma una donna che non parte più e resta con me. Non ho voglia di scambiare parola, un tuo bacio sulla bocca, labbra di forza, come un calcio sulla porta, sai l'amore ha un effetto a molla e ci si attacca per via della colla, poi ci si attacca per via della collera, nella conta delle settimane, alla ricerca di un punto cardinale in cui pensiamo questa storia dove può arrivare, ma nel farlo entrambi abbiamo già reso le nostre menti coordinate, le mie rime quasi fotografiche, perché hanno bisogno di negatività per essere sviluppate, tanto a litigare siamo il massimo. Ogni giorno lo passiamo a concentrarci sull'orgoglio più che sull'orgasmo. Oggi l'affetto è così elastico che forse giurarselo è un concetto giurassico, e lo sforzo che ho fatto per smuoverti servirà ad un altro. A me resterà il miele attaccato al tappo del barattolo, così mi adatto alle persone che non legano la relazione ad un contratto e preferisco il beneficio del contatto alla possessione. Sì, io ti voglio prendere come si prende il sole, il resto parole di facciata. Ai tuoi non usare la macchina e prova una dieta sana, faccio una risata. Tu sei un attivista a tutela della natura, beh, io un attivista a tutela della natura umana. L'odore di limone sulle gote che mi scioglie la lingua mentre esplode, lontano dalle sillabe delle notti. Il sapore mite delle cose buone contrario alle lusinghe delle mode. Ma è solo un'altra sindrome. È bello come il lunedì, proviamo ad illuderci, che i miei gesti lucidi riparino i tuoi gesti ludici, a tonalità multiple, di prassi mie e tue, in alcune grafie il due si confonde con l'undici, e le luci dei lampioni cubici stanotte risultano futili, coperte dai fumi della città, ma resta la luna a illuderli e non far che tu sia l'unica a sembrare brillante, ma senza umanità mi limito alla musica, l'amore è tutto il contrario, si fanno mesi di prove, dopo una notte di spettacolo, finché lasciarsi è un esito chiaro. Là, il fumo dopo il sesso suona un po' come il fumo dopo lo sparo, nonostante la discussione in cui mento sudando mentre tu mi ascolti col mento sul palmo. Passiamo la fine di queste 24 ore a parlare di vita e sfiorarci le dita guardando il ventilatore poco prima di partenze verso città europee molto più moderne ma molto meno materne, in cui tu renderai quegli uffici di pratica forense il museo degli uffizi che gravita a Firenze. L'odore di limone sulle gote che mi scioglie la lingua mentre esplode lontano dalle sillabe e le note. Il sapore mite delle cose buone, contrario alle lusinghe delle mode, ma è solo un'altra sindrome per noi. Grazie. State divertendo? Parlo col pubblico ormai come Maurizio Battista, come i comici tipo Brignano. Signora mia bella, come sta? No, a dire di questo, questo disco che è uscito, diciamo non è il mio primo disco, è già uscito un disco nel 2019, qualcuno si ricorda? Si chiama Cantautorato. E in quel disco c'era un pezzo che si chiama Amari un po' e vorrei farvelo sentire. Amarsi un po' è come bere, e stare solo è come stare sobrio da un altro cocktail di vodka e miele che ha sempre un gusto esotico, ma io chiamo il solito. Con il piede verso un posto a sedere, mi accomodo, poi ordino un bicchiere, l'altro interlocutore che mi chiede se voglio un po' di unicum, di Jäger, sa che coi miei vizi mi trovo bene, in genere a strappare la comanda al cameriere, la mia vita piatta dai picchi nervosi, io assonnato mi torco la barba, lei ha saltato il corso da barma, l'amaro va servito in piccole dosi, metempsicosi, voci da madrigale, l'alcol muto un gesto domenicale in un rituale verso, non nel senso connesso a una direzione, ma nel senso che una direzione la fa diventare chiare in più. Tu sei una donna speciale per farlo risaltare, vuoi un complimento razionale, tu sei la seconda persona singolare, ma non grammaticale, a parte noi tutto il resto sembra uguale, pensare che spalancavo la mandibola perché credevo di capire la mia vita, ma quando sei arrivata è stata come la mattina del primo giorno da matricola, nello zaino una lattina e una matita a fare un tratto del tuo viso raro, che poi non serve un visionario, bastano Tizio e Caio per sentire che i miei occhi e i tuoi cobalto contrattano in un attimo due lingue a contatto come in un dizionario. Il caffè nella moca un altro sapore, da quando hai il liquore nella bocca, e un altro copione nella borsa, e un altro cognome nella porta, e un altro coglione ma con cui avere una figlia bionda, una vita a morte, una villa altrove. Cogliere l'amore è un po' come cogliere le more, bisogna stare attenti a non farsi male, ed ogni voce data un sintetizzatore come l'essenza dei fiori che ha portato all'assenza dei fiori dalle case, tornate tossiche in preda corse, code alle poste, liti grosse come le nostre alle volte, ma la quotidianità è toccare l'arte senza accorgersene, comportarsi come le mosche alle mostre, poster dei momenti condivisi, lasciarsi, amarsi l'easing, tanto lato. La vita poi ci fa tornare uniti nei momenti di fatica, di crisi, quando non voglio una mia califa ma voglio la mia calisi. Gli scrittori sono dei bugiardi, io in primis, dunque non seguire i passi di chiunque rimi. La sintassi usala come suggeritrice, le cose che stanno male sono quelle preferite. Sei felice basta, ma so con me lo stress mastica, insegna a mettere una maschera come l'hostess. Fanno i rivali tipo a calcio l'Italia con la Francia, e capirò il ritardo che li tagli con la frangia. Poi parole dette in faccia, di pancia, a me che da sempre resto paziente nel linguaggio e medito su un'altra nota taccia, che in questa storia matta mi renderà paziente, ma nel linguaggio medico. Il caffè nella moca un altro sapore, da quando hai il liquore nella bocca, e un altro copione nella borsa, e un altro cognome nella porta, e un altro coglione, ma con cui avere una figlia bionda, una vita a morte, una villa altrove. Ne volete ancora? Allora, innanzitutto voglio leggervi un'altra cosa. Dunque, credo che il paradosso maggiore per chi fa rap contenutistico, musica che si possa definire culturale, credo siano le discoteche. E sempre nel 2020, chiuso a casa, ho fatto una riflessione riguardante le discoteche, un posto sempre troppo maltrattato dalla gente insomma, che fa musica culturale, dagli scrittori. Invece, secondo me, le discoteche hanno un grandissimo valore sociale. E ho provato a fare un'analisi delle discoteche della mia gioventù, le discoteche siciliane. Una sera, tra le tante, del calendario annuale, dopo cena, urgeva attuare in modo cinico un'uscita solita, con l'obiettivo specifico che semplifico, nella voglia di non fare nulla di speciale. Le sagome degli amici, come sempre piazzate, sulle stesse mattonelle del piazzale, le facevano sembrare assegnate con le iniziali, tipo i reati nei giornali, i nomi iniziatici o i posti iniziali degli spettacoli nei teatri. Alla domanda di cosa discutete, seguiva una risposta a toni concitati. Si trattava di una scelta delicata come mai, ovvero calcolare i risparmi e trovare la più adatta tra le discoteche. Nelle fasi del dialogo, le frasi, diffondendo per la via, i nomi delle madri e di ogni zia, portavano i ragazzi in paese a mostrar di non aver compreso che se c'è una malattia non è l'omosessualità ma l'omofobia. E via, in quattro su una Fiat, fino alla lucina esibita da una parcheggiatrice abusiva, che trovo alquanto rappresentativa del mercato di CD e discografia nei primi 10 anni del 2000. La copia fisica costava qualche euro. Chi la comprava durante la serata cantava e si divertiva. La copia pirata costava zero, anche quella divertiva, ma fino alla mattina poi ti rompeva lo stereo. Fatto il timbro nero, eccoci all'interno della pista, in un locale dove ogni luce brilla, così moderno. La rissa. È un bellissimo nome, maggiormente diffuso in America Latina, ma anche il comportamento maggiormente diffuso lì dentro. Il pretesto per dare una testata al prossimo era una scarpa calpestata o un cocktail lanciato addosso. Difatti sembrava un paradosso ciò che stavo per dire, risolvere i contrasti col discorso in modo civile. Quanto proposto si perdeva nel pragmatismo delle file, i meno agiati con l'abitudine al dialetto e i benestanti con l'abitudine a tradurre le versioni latine, quella sera trovavano un punto d'intreccio nella voglia matta e irrefrenabile di lasciare il verbo alla fine. Da lì c'è poco altro, il doppio taglio sembrava propedeutico anche per strappare un solo bacio. Così tornavo a casa annoiato, collassando sul divano, a dire la verità, più a causa del sonno che per l'alcol. Nel farlo pressavo il telecomando e la TV si accendeva sui canali regionali che i miei avevano visto. Quei canali regionali, riflesso della mia adolescenza, trovati a metà percorso tra i cartoni animati ed un banale erotismo. Grazie. Allora, di solito quando mi avvicino alla fine dei miei live faccio sempre un pezzo abbastanza particolare. Questo pezzo nasce da una domanda che spesso mi viene fatta dalle persone che non conoscono bene il rap cantautorale, che non conoscono lo storytelling, e dicono: ma voi storyteller, se avete voglia di scrivere queste storie nelle canzoni, allora perché non scrivete un libro? Beh, io penso che, per onestà intellettuale, se mai un rapper dovesse scrivere un libro, dovrebbe anche rapparlo. E se io rappassi il mio libro, inizierebbe così. Quando il sole è alto ed ha per alito un caldo afono, su ogni campo afoso il grano è tigrato e di grado aureo, timbrato piano, tanto incontato di rado lo arano, supplendo al manto splendido mango in quell'anno arido. A lui danno adito e ne sono teatro le storie che vagano da scuole ad un atrio fino ad un attico, venerando in un attimo, venerando un atto mirato come un miracolo, virato da quella taverna al tabernacolo. Nil fa un passo scalzo dall'abitacolo, arriva in ritardo, ritirando il cibo caldo che ha ordinato, con un braccio prende il manzo marinato, con l'altro regge un romanzo sul viaggio pazzo di un marinaio. Il sapore del piatto fonde quello del vocabolo, fratto ogni lettera viva e fibra di cui è fatto l'incarto sul tavolo, è un sapore candido, quello di parole inadatto a persone che ritraggono il diavolo dentro al dialogo. Tra i muri, nello spazio di un angolo, consuma il proprio pranzo arabo, squagliato in grumi, taglia gli agrumi venuti da alberi acunei, che sfregati acuti e tagliati a cubi ricordano gli acuti di alcuni aculei. Il locale di quelli brutti, anni 70, coi baristi muti e 100 buchi in mezzo ad ogni serranda. Poi la luce cambia, l'alba stanca rantola, è una piaga calma, dalla panca bianca la pianta di Caranda. Sui vetri della locanda vede la faccia rifarsi viva, giuliva sotto baffi salmastri, gioiva dei pasti fantastici, mai nefasti, ma nei fatti lontani come corpi dagli astri nei suoi viaggi tra i ghiacci. Tra quelli rimasti era il più chiaro tra tutti i maschi, coi volti bronzei e bassi, sui carapaci dei crostacei, silenti nello stappare i frutti dai caschi, quasi monastici, tutti troppo distratti per recarsi dall'aschi. Sì, perché i suoi tratti erano plastici, con gli zigomi scarni e di palmi nelle mani morbide. Nelle orbite due cobalti e scappano codardi dentro palpebre che stanno lì per morderli coi baffi. Battiti. Nonostante veda e senta l'età combatterli, alza i tacchi non più creta, ma crema, ad ogni crepa mai compatti, rossi, perifossi e pieni di calli, quasi la vita fosse lì a decorarli con dei coralli o con dei coriandoli. Allora, prima di lasciarvi, volevo farvi sentire un'ultima cosa. Vi va di battere le mani a tempo, anche se noi italiani non siamo bravissimi a battere le mani a tempo. Io non ci riesco, ad esempio. Comunque, vi va di farmi sentire un 3 o 4, volte nella notte mi alzo, il telefono accanto è caldo, luccica, lo guardo, mi somiglia tanto, anche se io sono stanco, non sto mostrando una faccia lucida, una vita fra le dita dei mercanti come nuovi regali sugli scaffali, e non è che muori diventi gratis, ribarremo solo rime, canti, dimenticanti, dimenticati, se bravi a dire le bugie, se ladri, se bravissimi, si diventa artisti, e le funzioni produttive sono come le puntine sui dischi, ruggire fino ad arrugginirsi, tu hai piani fissi, scandisci il tempo con lo stesso gesto, poi quando torni a casa sei un elettrodomestico, il lato umano in sala sarà elettrodomestico, vento del progresso. Hai perso contro quello dell'ignavia, alza le azalee in aria, danza su ogni pianta col madaffa come in Africa, dilaga, riempi d'acqua il mio habitat, fai presto, presto, e porta lontano da questo baccano il pretesto di azioni pretese, da braccia protese che durano un mese, come prese in prestito io vestirò i panni dell'adolescenza, ben prima della conoscenza di una strada certa, con la folla scettica, e farò una scelta, non in relazione religione e scienza, siamo il programmatore della terra, se chi muove la tende la giornata è splendida, dimentica che perfino il sole ha la sua obsolescenza, per Bacco devo faticare per 4, devo cominciare da capo, devo ripudiare questi suoni da catto, sei fuori mercato, vai fuori dal cazzo, yao, quanti schiaffi raccatto, vedi quante volte mi attaccano, perché gioco alla maniera del pazzo, tipo col portiere in attacco, se chi fa un'opera d'arte non lo chiami artista ma operaio, tutto diventa più chiaro, se chi fa un'opera d'arte non lo chiami artista ma operaio, tutto diventa più chiaro. Se chi fa un'opera d'arte non lo chiami artista ma operaio, tutto diventa più chiaro. Se chi fa un'opera d'arte non lo chiami artista ma operaio, tutto diventa più chiaro. Thank you. investimi di nuovo, che stili di moto potrei esercitare per venire da te e vestirmi di te e riempirmi di vuoto, versare una donna dentro un uomo, spargere quest'acqua sopra il fuoco, argine del logo, smargine del luogo in cui invertiamo il moto per non incrociare le nostre linee. Aretusa, racchiusa in un campo alla valle umida, ascoltando con la musica un gatto che fa le fusa, passa il giorno in tunica, a contatto col prato del padre, contando le strade dalla sua mansarda rustica d'estate, quasi per causa ludica, fa parte della fauna di uno stagno, quando fa un bagno nuda, e la natura di campagna l'accompagna cantando, scaldando l'ugola, mentre passa ogni luna e vaga ogni nuvola, il tempo la fa matura come l'uva, e molto presto tutto questo la rende il frutto più fresco della radura, il fiore di pesco ramato, bramato da ogni creatura con rispetto, lei che taglia il mughetto e quasi chiede scusa, un muretto di pietra ruvida circonda la tenuta, ma non di valore, ricca di ombre e non di calore, il padre coltivatore fatica dalla mattina fin quando da bambina in quella cascina dormiva ore, usa poco il televisore, l'elettricità, motivo di impressione o eccentricità per persone dei centri città, va bene a scuola e lo fa con semplicità, ma resta solo, ignora i pregiudizi e sa i pregi di Sartre, dopo scuola torna a rudere, sorge tra i rami alti, le mura coi rampicanti, le piante sono le uniche a volersi unire a una famiglia umile, priva di piani grandi, prima nel recapitarti tra le sudite, un giorno di luce cuce nel bruno del buio lugubre, legge un libro così bello per cui benedice Gutenberg, finisce quello e parte con delle vivande crude, il pane per placar la fame delle nutri che le nutre, l'impegna le mani nude col cesto di vimini, a passo lento tra cento viti, madri dei migliori vini, e lascia cibi dentro i nidi, lettane i cunicoli, allieta i sogni pomeridiani dei proprietari più cinici, prosegue, o le farfalle saranno cimici, ore calde cadran presto dentro i fili del grano, con le spalle bianche, le anche larghe, sfiora l'acqua con gli indici, segna l'incipit per dirigersi verso il grande pantano, rodi ogni scarpa e scatta scalza verso quel fosso divenuto un corso d'acqua, all'ombra della lavanda prende una bacca da un cespuglio rosso di rovi, più grosso del colosso di Rodi, le spine armano il bosco di bossoli nuovi, libera i capelli dai nodi, era bella in ogni tratto e nei modi, con gli occhi grandi di una pelle come una ninfa dei monti, sotto cui scorreva linfa così verde che si perde nei mondi degli altri. Sefra. Prendo le redini della storia degli uomini che nascono indebitati fino al collo, dei loro colletti bianchi che si ingialliscono come lieve dita di freddo, Blue Winston. Scrivo di una città invisibile come la mia faccia e fragile come noi, come i tuoi occhi presi in prestito alla solitudine. Dubito e scrivo cantilene per la voglia di rime dette male, la maledetta voglia di rimanere vivo. E se nessuno ascolta butterò semi al vento, così magari fiorirà il cielo come in Dillo un'altra volta. Primo. Le emozioni giacevano comodo nelle tasche vuote dei sentimenti che vestivano salopette sporche della paura di non valere la pena. Ancora tornavano di moda come le ronde nere nei paesini di provincia, spogliavano ciò che rimaneva di noi per abbottonarsi sopra i vestiti. Tu, come altre, sparivi tra parole scusa al miele, rimanevo solo a sfogliare un altro cielo d'epiam di opinioni su come sarà il tempo domani. Il tempo domani. Tiravo come al solito il filo della tenda dalla parte sbagliata. Dalla parte sbagliata crollavano promontori di promesse artificiali sui cadaveri delle vostre storie d'amore marce, sulle bugie di tutte queste banche di sangue, sui vostri cuori presi a rate, sui loro vuoti emotivi da riempire il venerdì sera, sulle voragini dell'Exotan, sui frantoi di questa sanità pubblica, crollavano lenti su questi sentimentifici e metalli pesanti, al ritmo di minuti di silenzio nero, su un'altra cattedrale sorda, sull'omelia del rumore bianco bara, su un'altra infanzia che paga le vostre rate in mora. Scrivo di un silenzio reduce, da un senso di colpa che non lascia perdere. L'ego si lascia vivere in quarantena appeso al filo della rabbia, macchia di sete, le camicie bianche se non guardi bene. Fasta lattini satellite delle lacrime di un salice e pozzanghere calme del mio sguardo incerto, bora verde. Dal mio posto qualunque, accarezzo la fronte a un altro giorno che non mi conosce ancora. E se la vita è un debito, la mia poesia è la mora. Se la vita è un debito, la mia poesia è la mora. È la mora. vorrei un tramonto di mercurio che si schiantasse subito e lucido, grigio definitivo, anche su di noi che continuiamo a prenderci in giro, a prenderci in giro, a prenderci in giro. Quando mi chiedi come faccio a tutto questo perdere, a lasciarti sempre qualcosa, io ti rispondo con le mie tasche vuote. So che mi lascerai ancora, e ancora, e ancora. Daniele Bettini. Io mi siedo, se non vi dispiace. Ok. Allora, noi siamo Mora. Come potete vedere, Daniele suona il piano perché è il pianoforte davanti, io ho il microfono, quindi faccio questa cosa di, si chiama Poesia e Musica, Spoken Music. Il progetto si chiama Mora, abbiamo pubblicato un album questo settembre che si chiama Debito, che è una storia d'amore tra un ragazzo e la sua città, che viene spiegata attraverso le fasi di un prestito bancario, quindi quello che faremo stasera non è altro che un prestito bancario. E ci indebiteremo tutti, che lo siamo già. Il contesto di questa storia d'amore non è altro che una situazione in cui a un certo punto l'umanità decide di privatizzare il cielo. Ve lo leggo. Il cielo cadde. La notte di San Lorenzo aveva rimpiazzato la vigilia di Natale nell'immaginario collettivo. I ragazzi non invadevano più le spiagge, rimanevano a casa, in famiglia, a festeggiare l'anniversario del giorno in cui caddero quasi tutte le stelle. Comunque, servirono anni per abituarsi. Un grande apparato, simile ad una bolla metallica traspirante, era stato costruito attorno al mondo. Lo stesso venne fatto attorno alla Luna. La privatizzazione del cielo passò alla storia come un atto di difesa mondiale dalle catastrofi. Tuttavia, le motivazioni erano ben altre. Il settore immobiliare, ad esempio, conobbe una nuova primavera. Il concetto di suolo non era più quello di prima, e anche quello di senza tetto passò a rappresentare il ceto sociale più abbiente. I più ricchi, infatti, potevano permettersi il cielo 24 ore su 24. La bolla traspariva sopra i quartieri bene altrove, invece ne imitava forme e colori, dal celeste al grigio piombo. Ne annichiliva quasi la mancanza e manteneva salda l'abitudine di dirigere gli occhi verso l'alto nei momenti post preghiera, attenuando così la disillusione che non ci fosse più posto per qualche dio. Le stelle, quelle rimaste, erano un lusso. Le teste basse avevano sostituito i conti correnti, bastava l'andamento per riconoscere i poveri. La finzione non era mai stata così consapevole. Gli stati garantivano buone dosi di luce solare negli spazi pubblici e l'aria, per qualità intrinseche, rimaneva un bene comune. Di lì a poco l'inflazione avrebbe colpito anche il mercato delle nuvole, i prezzi sarebbero schizzati e i consorzi agricoli ormai in fallimento avrebbero ceduto il posto alle nuove multinazionali del gruppo Icaro. Le associazioni dei consumatori, però, riuscirono a strappare quello che loro stesse nelle successive conferenze definirono un ottimo risultato. Una volta l'anno, la notte del 10 agosto, tutto quell'apparato traspariva e tutti potevano assistere allo spettacolo. Le stelle si lasciavano andare sopra la città che faceva da luce al resto, nonostante tutto quel buio dentro. La notte di San Lorenzo ti ho persa, per qualche secondo, nella coda dell'occhio. Eravamo spaventati o comunque ancora lontani dal crederci pronti al peggio, quando arriva pare sempre così puntuale. Quella sera i ragazzi erano rimasti a casa, in famiglia, a guardare le ultime stelle cadere, come eravamo caduti noi. La meschinità spacciata per meraviglia, la mediocrità di un mito per sentirsi meno soli, ti avevo chiesto un quadro. Tu, qualche tempo dopo, avresti dipinto una frana, mentre sotto una luce al neon avevo ancora paura di guardarti negli occhi. Erano nero pece, e io così ottimista da vederci il futuro. Prego. Tolgo di dosso un altro giorno, sbatte sul pavimento, le mie scarpe sembrano di cemento,

performance. Sogno male, dormo peggio per colpa dei grilli o perché mi manca casa. L'incedere di un tramonto di mercurio incespicava di proposito per tenere ancora un po' per sé la sera al guinzaglio. Le macchine ferme e noi in mezzo come a bordo piscina sulla schiena, la lamiera fa fresca l'afa e sono uno spartitraffico i tuoi occhi, sono come vetri in faccia. Raccolgo i cocci e fa presto l'alba. Passati 20 anni con ancora i capelli, mi ritrovo tra quelli che sperano di leggere domani una consolazione tra le righe di piombo dei giornali che con i polpastrelli ancora sporchi li rivogliono indietro, tutti e 20 puliti. E invece frantumi, folle e fili, dalle mie corde vocali e il tram di Franco Fortini che cigola sulle pagine mie e degli altri 4 poveri stronzi che gli stanno ancora dietro. Del cielo quasi senza stelle ho già scritto, però quasi quasi me ne pento e mi vergogno, quasi mi manca il grande buio, la mia aria è il fiato corto, braccato come domicilio fisso. E, onestamente, il blues della lontananza non lo capisce solo chi non l'ha mai provato. Riprendo una melodia dei Voodoo Brothers, Kento e Gianni Spezzano, l'ago e il filo sulla carne viva, che non conosce l'accento che prende il cemento nelle piccole case di paese, lo slang del vicolo, o le bottiglie di traffico borghese che vanno bevute a temperatura ambiente oppure accese, come Molotov contro il niente. Nelle periferie della metrica, le sillabe non cadono mai nel punto giusto del verso, non esiste endecasillabo, non è spocchia verso il centro storico, non c'è retorica da diamante grezzo, ogni volta che cadono però fanno un casino ricorsivo, assurdo, e lo sento, come catene di Andromeda sull'addome, queste scarpette da ballo non mi vanno bene, non è una danza classica, è una capoeira nostalgica che sa di amaro miele, quando cerco di fare chiarezza come il sereno, le parole escono tutte assieme. Comunque dicevo, le macchine ferme e noi in mezzo, i nostri indici a puntare in alto, a cercare una colpa, sotto un cielo che massacra di botte ogni volta mi guardo attorno, mentre l'impero del tutto si mostra in tutto il suo vuoto e penso che tutto sommato i piccioni fanno bene a cagarci addosso. La città, guardavo dal finestrino la mia notte, tornare a casa tardi, la sera nera, e la mattina s'arrampicava sulla matita e finiva sul foglio. Intanto miriadi di uffici si riempivano gli occhi, dei rispettivi rimpianti e nodi stretti di cravatte come tralicci, trattenevano il respiro ai battiti e mettevano in posa gli istinti, fotografie brevi, fotogrammi e sintesi di volti riposati sui giorni a collo di bottiglia, ripidi e di vertigini sugli strapiombi dei forse eravamo sbagliati vergini, e di questi edifici grigi incerti sotto cieli vinili intermittenti e di graffiti che gridavano i miei silenzi su città staminali zittite a schiaffi verdi e vetri di cementerie, ciminiere e cimiteri. Sui vetri del nulla da dire, le nostre impronte infrante nere come desideri d'aria. Tornavamo a casa a piedi nudi, con i costumi pieni della spiaggia di siringhe, fredda e ferma, la domenica ad aspettarci alla ringhiera del letto. Non sopportava che il sabato le venisse ogni volta dentro, lasciandola sola poi a spiegare al prossimo lunedì tutto quel portarsi avanti anche senza sentimenti. Vista bruciare le gole delle storie d'amore, i miasmi, i manchi di magma come piante di mamma, le cisterne ti cullavano il sonno in ninna nanne di sirene e paranoie in biberon di latte in polvere sottile come cantilene, come cantilene, come cantilene, come cantilene, come cantilene. Le narici bianche da tirar su, le noie vuote dei venerdì notte sulle tue vene troppo piene di forze come piovre di petroli, come piovre di petroli. Atomi neri e cromosomi atoni al ritmo delle note cromatiche della tua pelle scandivano scandinava la voce dei tuoi passi che cadono sulle cartelle cliniche, cronache delle tue notti croniche, dislocature da forze, dall'equilibrio debole a mamma, mangia che devi crescere. La mia Hollywood è la crepa di un cinema da cui spero qualcuno veda la fiaccola, la fabbrica, la macchina che macina il corpo vero dell'anima che macera nell'olio nero dell'Africa e manteca polmoni in vapori di plastica, macchia, sorrisi di lacrima, maschera, amianti da favola con corone bianche di zagara, ma poi il cinema chiude e rimango solo con le mie storie nude a vederti bruciare, figlia di un amore turnista pronto all'evacuazione, dammi tutti i tuoi 6-18 e poi 18-6 e poi 6-18 e poi 18-6 e poi 18 e poi 18-6 e poi 18 e poi 18-6 e poi 18 e poi 18-6 e poi 18 e poi sei a tempo indeterminato con la vita in cassa integrazione, loro darti fuoco, scaldarsi le mani, pisciarti sopra per poi chiamare il fumo che resta, gioventù bruciata. Per poi chiamare il fumo che resta. Ti ho vista nei miei occhi bruciare e bruciavamo insieme in uno di quei futuri prossimi, la disoccupazione e in tutto il rammarico che ho per non averti scritto e in tutto il rammarico che ho per non averti scritto. E in tutto il rammarico che ho per non averti scritto un'altra poesia d'amore. Daniele Bettini. Confondo la voce a vuoto del giradischi con quella della moca, sono distratto, il cielo che mi sta sopra è una truffa, i miei occhi pure, lascio la cucina immobile, apprezzo il mondo quando sta in silenzio al suo posto, a mezzanotte sono io a scegliere la musica, Daniele, sono alla stanza di Ettore, un pianoforte, un temporale, con le gocce messe in ordine, noi siamo rimasti degli sconosciuti. Raccolgo le ultime cose da dirti mentre torno a casa. Sono anni ormai che il pazzo del paese rovista tra la spazzatura fuma come se non ci fosse un domani. Spera di trovarci un po' di sé o il biglietto della moglie che spieghi le valigie. Raccolgo il resto delle persone, mi dice. Sono solo cianfrusaglie, eppure dovevo essere qui da qualche parte. Oh, ricordi che mi spaccano le orbite. Ancora i suoi capelli in bocca, la sua voce al telefono come sotto la pelle. Avrà le ferie a dicembre, settembre, il tempo perso a scrivere sui occhi. La vedo così piccola mentre straparlo fino alla noia, mi ci vedo già. Preparo i giorni senza. Continua, dopo essersi tirato sulla cerniera e pisciato un po' sopra. Da bambino vedevo le anime nelle foto mosse e i diavoli nelle pupille rosse. Spezzavo le sigarette a mia madre, non volevo che fumasse. Le nascondevo nella mia Ferrari rossa, ne ho trovato una uguale. Guarda, certe sere rimpiango l'infanzia. Tutto questo crescere mi ha spaccato la faccia. Mi ha spaccato la faccia. Cerco di calmarlo, lo faccio salire in macchina, gli chiedo dove abita, non risponde, poi parla. Fatico ad abituarmi ai cambiamenti, come tutti, vorrei rimanesse per sempre così com'è casa mia, eppure ho smontato tutte le porte, le ho smontate tutte. Certe sere il rumore che fanno le persone quando vanno via è troppo forte. Certe sere il rumore che fanno le persone quando vanno via è troppo forte. Certe sere il rumore che fanno le persone quando vanno via è troppo forte. Certe sere il rumore che fanno le persone quando vanno via è troppo forte. Certe sere il rumore che fanno le persone quando vanno via. Certe sere il rumore che fanno le persone quando vanno via è troppo forte. Certe sere il rumore che fanno le persone quando vanno via è troppo forte. Certe sere il rumore che fanno le persone quando vanno via è troppo forte. Certe sere il rumore che fanno le persone quando vanno via. Grazie. Macchia. Allungo la mia età con la noia della barba e qualche bicchiere. La mia bocca impasta una spiaggia, la notte non liquido la notte, dagli occhi neri, dagli incubi a caratteri cubitali. Era liquidi infiammabili, di grigni, delle ossa a grondaie, di botte di grandine, gradini sui denti, 800 gradi e brochure di bruciature sulla schiena dei 20 anni. Ci tenevano svegli. Da mezzo uomo scappo, prendo l'ultimo circolare verso la mia vita labica e bevo il suono nero, le farmacie satellite, orbite degli occhi degli ospedali, il filo dei miei sogni, un cappio al collo ai miei occhi, non l'avresti detto mai. Dovremmo riprenderci le nostre fette di lavoro, dicevano, ma non ho più fame, qua si accorda tutto, è mi minore e vago, vado al tempo col temporale che c'è dentro le mie tasche, che cerco fuori dalla finestra. Ripasso un'altra volta e ricordo che ho di te prima che menta. Poi gli occhi di mio figlio mi riportano a terra. La verità, abitavo l'abitudine, suonavo al citofono dopo 20 anni, senza avere nulla da dire, solo per farsi vedere, fare l'amore, fare rumore e fare l'amore. Si denudava appena per non denudarsi mai, arrivava l'ultimo giorno dell'anno, per prendere il tempo al perdere tempo, come l'ultimo giorno dell'anno. Era parole fumanti, olio bollente su tela, di chi non dorme spesso e per risparmiarsi l'anima dalla colpa alla gola, di chi ha un senso spesso e suda. A suo modo scrive, i sogni sulle lenzuola. Era le vietene attorcigliati tra gli zigomi, pelle rigata, fumo che lacrima, sucri, nali al miele. Era ciminiere, il cielo che sanguina e io cercavo di pulire. Faccio per alzarmi, da mezzo uomo mio figlio mi vede, mi riprende, mi toglie la sete e mi riempie. Togli tutti i bicchieri dallo scaffale per non farmi bere, li riempie d'acqua, inizia a suonare, mi riempie. L'aria ci muove calda sulle dita, come dita sulla spiaggia, sui bordi si commuove, il vetro trema, musica. Era bicchieri d'acqua e modi diversi di togliere la sete. Eravamo in due quando bastava soffiare per cambiare i contorni alle nuvole. O magari l'avevamo soltanto persa di vista. Magari ci eravamo solo persi di vista. Faccio un attimo uno spot pubblicitario, non lo faccio mai. Il nostro album è uscito a settembre, si chiama Noi ci chiamiamo Mora, l'album si chiama Debito. Trovate tutte queste, tranne una, questa qua non la trovate. Perché? Questo per dire cosa? Che segue la struttura di un prestito bancario, alla fine uno pensa che ci sia il saldo del debito, in realtà, come vi spiegavo prima, è una metafora generazionale, proprio perché cerco di spiegarmi in qualche modo, sia per quanto riguarda l'inquinamento, sia mi riguarda il discorso del nome, eccetera, eccetera, che il debito passa da una generazione all'altra. È un circolo infinito. Quindi ci si aspetta che in un certo senso venga pagato questo debito, in realtà no. C'è una cosa che si chiama rinegoziazione del debito, che tu paghi un debito con un altro debito. Questo pezzo si intitola Banche del Sangue, la volta che non ti ho più vista. Prego. Apro una parentesi, sul davanzale di questi anni venti, tutto cambia per restare così com'è, leggi e ti sta bene, a me neanche un po', provo a darmi del tu, come se mi conoscessi, tiro a caso tra i denti qualche parola emostatica, cerco la vena buona della sera prima, e fuori la periferia oppure ce l'è dentro, mi dicevo, in macchina il maledetto Just Charlie Parker, tutte le cose che sei e tutte le mie domande, tra le onde di Mercurio un uomo si tocca le palle, vorrebbe vedere suo figlio crescere, per qualche motivo non ci crede nemmeno, sa già il finale. Correvano costellazioni di lampioni, chilometri di cemento, la vertigine orizzontale di quando ti guardo, l'asfalto tranquillo a differenza mia, sui miei occhi di carta bruciata poteva essere una poesia e invece fumo troppo, sono sere di silenzi e cenere del succruscotto, mi mettere le mani addosso, nei tuoi occhi la luce incastrava castano e nero, come fosse un nero fine, come il nero fine filtro, io ci vedo il mondo all'inizio, poi un cielo di strilli, Saturno ingoia i suoi figli ma tu cresci, sai, e degli occhi diversi, mi sono sempre chiesto cosa ci trovassi in quei balordi. Il tuo sguardo è un delay cutaneo, un beat di ciglia in sincope fuori BPM. Mi hai visto crescere, poi la pelle d'oca. Ho il tuo basso in gola che vibra in minore. E tutte le cose che sei quando le scrivo hanno sempre le stesse note, o comunque lo stesso nome. Ad alta voce sei una storia d'amore. In silenzio invece una luce d'emergenza per una buona notte. So che scriverti adesso non fa differenza, ma a te sotto la pelle canta in sottofondo Sinatra. La sera mi avvicino per una carezza, ma finisco sempre per sporcarti il viso di penna. Guardo la parte del mondo che riconosco mia, e fuori la periferia io me la porto dentro, aspettando che esca, certe sere mi rileggo. Francamente, rivorrei tutte le mie poesie indietro. Vai da capo. Thank you. Daniele Bettini. Come dicevo, ci trovate un po' ovunque, basta scrivere Mora Debito su Instagram, Mora Spoken Music, aiutateci, sosteneteci, stateci vicino. Being opposed, I stick your chest, I keep the chin up. It's the time to got to get knocked down. time is gone. Hey, but until you see me, trust me. You ain't seen back to back. You keep bumping me against the wall. Yeah, I know I let the time fall. But until you see me, trust me. You ain't seen back to back. No matter what happened, I sold me once. Shame on you. You come up in here and do it again, then it's shame on me. Sometimes we be getting told what we didn't want to learn. Sometimes we be getting told what we ain't want to see. I accept my wins just like the way that I fell. I grow, I take them stride, I put them under my belt. I learn from you just like you learn from me. I bleed, I pray for peace, perfect harmony. Somebody said, fool, you better keep on rapping. Stop that trip, ain't gonna happen. I told them, look, you better mind your business. Change your way of thinking, keep on living. They thought us some trouble and you ain't been out since. Cause you stuck inside scared, watching CNN. Just take the precautions or your life will be better. Tell my friends to call me, I ain't accepting no letters. So keep bumping me against the wall. Yeah, I know I let the side fall. But until you see me, trust me. You ain't seen back to back. You keep bumping me against the wall. Yeah, I know I let the side fall. But until you see me, trust me. You ain't seen back to back. Oh, you heard about it? Yeah, you had to. I know you changed your mind, you ain't the only one with bad news. I know that it made you feel strange, huh? You was right in the middle complaining and forgot what you was crying about. It could be your time and it might be. You can't do nothing about it, the God's will, that's just how life be. One thing is with you, then it's gone. And I'm serious, and you ain't never even gonna feel it until it hit home. That's when the pain runs sharp and deep, and you ain't need this when the days feel slow and long. I know you miss them, so it's time to uplift and try to pick the pieces up and find a way to drive on. I take it the truth, so don't lie to me. Get back, Satan, man, fire to me. And that's the way that gotta be. And that's the way that gotta be. And when it's over, I'm gonna hope you're proud of me. You keep bumping me against the wall. Yeah, I know I let the side before. But until you see me, trust me. You ain't seen bouncing back. You keep bumping me against the wall. Yeah, I know I let the side before. But until you see me, trust me. You ain't seen bouncing back. Thank you. Yo, buonasera. È già iniziato, ci sono le porte aperte che volevi. Adesso, oltre al no col ditino di prima, facci sentire se ti sei ricordato tutti gli strumenti. Vediamo come suonano tutti insieme. Falli suonare un po', vediamo se ce li hai tutti. Vediamo. Ow! Wow. Johnny D, ma che è Ninja Beats. Ok, quindi sapere che Ninja Beats è anche un DJ di drum and bass, che è la cosa che è più difficile applicare alla poesia, ma cerca di metterla in ogni brano. Quindi Ninja, scaldaci un altro po' con un po' di drum and bass, per piacere. Oh, drum and bass, yo. Ok, so ci avete praticamente visto scomposti in questa insomma, così un po' sparsi nel luogo e scomposti, quindi avete più o meno capito che cosa sta per accadere, no? Abbiamo scritto uno spettacolo per di tributi, una specie di antologia, ma molto meno noiosa di quanto sembra, di quelli che secondo noi sono gli imprescindibili e le imprescindibili della poesia orale, dell'arte della voce, della narrazione in un certo senso. Sono 6 capitoli e sono localizzati nel globo, quindi sono un viaggio in un certo senso, e un viaggio non necessariamente deve partire da lontano, ma il nostro viaggio da lontano è partito dal corpo di un adolescente greco a cavalcioni sul V secolo avanti Cristo, si intende, figlio di nobili nella città di Eleusi, portava il nome di Eschilo. Questo viaggio comincia prima che il suo talento diventi fama, prima degli Olimpi, gli dei dalla forma umana, prima di Zeus, Ares, Apollo, Atena, prima di Dario, il dio dei Medi, e prima della battaglia di Maratona, prima che faccia comparsa quello che chiamano oggi democrazia, prima che Atene si faccia un'idea precisa di ciò che l'aria già presagiva. Eschilo, tragediografo, soldato, ragazzo, osservava attento il processo. Atene è madre nuovamente gravida. Il sangue chiama sangue, richiama a sé ogni corpo che languisce, ne vede le viscere seccarsi tra le lande appena oltre. L'Egeo nasconde Atlantide al Pireo. Il pubblico pagante cerca una luce nell'Elea, ma all'apogeo è fialto e monito. La nomofilachia richiede aria per l'esofago di un popolo diretto dalla bocca dello stomaco dell'aristocrazia dell'Areopago. Intanto la vedetta sul porto ha buone nuove. Chiede commiato. Il mare è caldo. Si innalza il fuoco. Il sangue chiama sangue, chiama sangue. Irrora dalle falde delle campagne, dagli aranceti nel Peloponneso, al culmine stondato del Parnaso. Tanto gentile, tanto innocuo appare terra mia da occhi d'invasore, dipinta d'arte sulle scabre piane, divisa incustodita nel rancore. Ma il sangue chiama sangue, chiama sangue, e con il sangue mescola la gloria nel dolore. Se Dio che scrive l'esito delle battaglie, allora che dalla penna sua riesca il mio nome. Ma il sangue chiama sangue, chiama sangue. Il sangue cambia sempre di colore. Non corre mica solo sotto pelle. Il sangue buca e brucia le pupille. L'ultima volta che lo vide aveva gli occhi neri, il passo sostenuto, protetto dagli arcieri del Tarso, il bianco dell'alabastro nei sentieri scoscesi poneva in risalto il suo sguardo per contrasto. E gli scrinieri stringono il polpaccio olografico, Ogni caucasico sogna il Caspio e lui di ritrovarsi faccia a faccia col mantello scarlatto. L'ombra di Dario nel Mediterraneo. Ma non c'è voce che senta né preghiera che tenga. Non c'è nome che regga la secca voce del caradro. E poi fu un lampo, l'impatto, neanche il tempo di distrarsi. Otto stadi da colmare, avere un ritmo e la catarsi, dice. Oppure hai speranze vane e oblite. Sappi che devi contare negli attimi in cui dite. Assume fattezze umane, saperli considerare. Mutarli in lance di frassini fra le cosce nemiche. Improntare il valore a tride nelle falangi persiane. Nelle falangi persiane, improntare il valore a tride. Saperlo considerare. Mutarli in lance di frassini fra le cosce nemiche. Negli attimi in cui dite. Assume fattezze umane, sappi che devi contare. Uno stadio da colmare, due stadi da colmare, tre stadi da colmare, quattro stadi da colmare, cinque stadi da colmare, sei stadi da colmare, sette stadi da colmare, otto stadi da colmare. Forse, forse, solo allora e forse queste sacre piane narreranno il tuo valore. Medo dalle lunghe chiome lo riconosce. Tolti gli schinieri, indossa vesti da cantore. Volge la storia umana dalle prime fasce. Dentro l'arco concavo e granito di persone. Corre il mormorio del cosmo sul colle di Ars. Dalle balconate nere nuove nubi chiare donano al divino forme umane. Volti alle ore, volti all'ate, volti all'ate, volti all'ate, volti all'ate, volti all'ate, volti all'ate, volti all'ate, volti all'ate, volti all'ate. La piana è muta. Shhh. La piana è muta. La sentenza è già scritta e ancora taciuta. Resta rinchiusa sua insaputa negli antri della Boulè. Negli anfratti della schedè versa speranza. Il suo peso grava sui versi di chi la canta. E ai molti volti, cupi, ombrosi, adorni, dire vorrebbe dire che solo chi soffre impara e la storia la fa chi scrive. Tra gli altri, poi, sentì i passi dai parodoi, vide palla di illuminarsi a cavallo tra marzo e aprile, migliaia di occhi sparsi guardar nei paesaggi attici, attendere agoni tragici dalle grandi Dionisie. Ma ogni cosa ha un fine, sì, ogni cosa ha fine a maggio. Se volge al termine il passaggio al divenire e ci si stacca dal retaggio di un dio, dal volto maschio il cui comando tiene in scacco con leggi vendicative al primo atto la polis al pianto rotto. Dopo ascolta il coro come fosse un uomo saggio. Ogni stasimo è un confronto tra lui e Apollo, ogni prologo è più colto e non c'è sangue. C'è solo l'uso del linguaggio e ora che finalmente è tutto pronto può sparire dietro il grande sipario del 458. Ma se buttasse anche solo un occhio accanto potrebbe dire: muoio guardando il volgo applaudire il mio ultimo atto. Olimpo glorioso, dammi una musa preta per te. Olimpo glorioso, dammi una musa che ti costa. Olimpo glorioso, dammi una storia che si racconti da sé. Olimpo glorioso, dammi una storia che si racconti da sé. Noi siamo il mezzo palco. Alcuni di voi ci hanno sentito diverse volte venire al Cox e venire quasi a casa. E siamo molto grati al Premio Dubito. Abbiamo uno spettacolo che ha un itinerario, però nelle ultime volte che l'abbiamo fatto, dopo aver registrato un disco in cui i brani sono cambiati tantissimo, ma le città e i luoghi e i personaggi sono rimasti gli stessi, abbiamo immaginato di poter invece, come un po' un'agenzia viaggi, ripensare l'itinerario insieme alle persone che ci ascoltano. Insomma, potete scegliere dove andiamo, raga, per farla breve breve. Noi di nostro saremmo andati a New York, ma siamo venuti a New York qui fuori. Possiamo andare a New York, se avete voglia. Possiamo andare a Tangeri. Possiamo andare ad Alessandria d'Egitto. Yeah. O a Parigi. New York. Ma come New York? D'Egitto. Allora, attenzione. Mi sembra ci sia giustamente un bivio. Sono belli i bivi. Ah. Allora facciamo così: un Alessandria d'Egitto, un New York abbastanza perentorio, ci sono altre... No, però c'è un Tangeri forte, quindi facciamo così. Tangeri o New York. Esatto, perché Alessandria d'Egitto è isolato, ma prima o poi ci arriviamo, non è mica che ci sta. Facciamo così, chi vuole andare a New York? Solo Paolo vuole andare non a New York. Non io, ad acclamazione, che è un po' io. Di cadì, Chi vuole andare a New York? A Tangeri? Ok, allora raga, va bene, andiamo a Tangeri, però, siamo a Tangeri, ma dopo la fine di internet, vi sta bene lo stesso? Per forza. Perché a Tangeri ci siamo solo dopo la fine di internet, e voi pensate che sia una cosa buona, ma lo è solo in parte, perché non è solo finito internet, ma c'è stato anche il grande rogo della letteratura. Quindi non c'è più internet e tutti i libri sono bruciati. Forse non proprio tutti, ma... Diciamo tutti. Sono veramente pochi gli autori sopravvissuti alla storia. Ma tra quelli che uscirono dai libri per tempo, sicuramente, c'è una poetessa italiana, bolognese, come noi, che però ha vissuto buona parte della sua vita in Marocco, a Tangeri appunto, a causa dei suoi problemi con la droga e con la giustizia. Vi parliamo di Patrizia Vicinelli. Aveva un corpo da buttare e una decina di riserva. Il primo di membra di carne, gli altri di fughe da riso e di carta, si trascurava come donna tra le convulse riproiezioni di posti analoghi a mondi psichici, luoghi di miti, miscomprensioni. Cantami in visa d'amori scomparsi, d'archeologie dei futuri minori. Perdi la forma da corpo di donna sebbene stai nuda cantando carponi, che c'è una piscina sul tetto del mondo, c'è una tempesta in piscina e sul fondo soltanto ci vive in apnea, laddove seduta si trova la dea della calma. Ma la ghindata è mangiata dal cloro, 20.000 leghe sotto loro, lei seduta, lei guarda la spuma e l'ombra proietta la luna sul bordo. Vede un'armatura fatta su misura, vede un'armatura, nota un'armatura verso l'armatura e prende l'armatura in mano. Lucidava l'armatura, guarda dentro l'armatura, entra dentro l'armatura, sigillata dentro l'armatura, prega. Come una mela che si spacca, prega. Come seno di gravida, prega. Come sole africano, come mare che lambisce il corpo e come uomo, splendente nella sua forma di maschio, come donna, radice del darsi, di ogni impronta, di voluta apertura. Usala quella carezza, insicura, appena impressa poi rimossa da una pellicola, peritura, protagonista di un mito in cui senza censura si inarca il sesso e la schiena ne segue la curvatura. La posa statuare nel marmo si fa a misura, real diventa anche quello che è oltre natura. È montatura però, è animale, se deve fare male pare non abbia una vera risposta, né sente di avere paura di ritrovarsi a dimenarsi in un letto di serpi a Tangeri, di vincolarsi tra gli spasmi degli accenti francesi e nascondendo le bianche ali dentro una siepe di rovi ha perso lo sguardo degli anni leggeri e dallo sguardo sulla costa si riflette l'ombra nuda della via che porta a casa che lei si dimenticò, uno spasmo nella faccia con lo zigomo indicava la via per tornare a casa e con un gesto la salvò, bastò un gesto e si salvò. Perché? Per vie ritorte vanno le menti sane, percorrono calanchi di rughe gincane, danno sembianze umane come vi fosse nata la maschera butterata, segnava il percorso agli occhi, affilava la spada. Ma se gli indizi della rovina non si allontanano dall'area rossa, dove il petto richiede calma, la mano disegna sommosse. Se la scossa non è di elettricità, la vena verde condurrà in modo almeno sufficiente ad andarsene sul niente, dal ria della sua gente immantinente, andando via da sfocature, da apparenze, tra le maschere non sa per scegliere quale indossare, per travestire la paura di tornare, percorrendo volute di fumo, cascate di tè marocchino, il corpo nudo ne perde il contatto. Il corpo nudo perde il contatto e lei attraversa la storia, meravigliosa e breve, già data irraccontabile, con metodo sensibile, con metodo la beve. Grazie. Grazie, ragazzi. Grazie. Allora, ora siamo a Tangeri. Andiamo a New York, in Andalusia, attenzione, nuova meta. A Parigi. Non vi limitate Alessandria una città, perché cioè, prima o poi andremo in tutte, quindi non fate... Avete presente quei viaggi cioè, organizzati in cui comunque si deve andare da tutte le parti, ma esatto, si può solo scegliere l'ordine. Alessandria d'Egitto. Non sei troppo convinta. Non sei troppo convinta, ed è giusto che tu non lo sia, è giusto che tu non lo sia. Andiamo a Parigi. Bene. Allora andiamo a Parigi, dal Riad di Patrizia Vicinelli. Passiamo alla stanza di un'altra donna, meno esposta, meno lucente, affacciata su Rue Montparnasse, in una Parigi di inizio Novecento. Questa è la lettera mai pubblicata, né mai letta, né mai veramente scritta, da Jeanne Buterne, o meglio, conosciuta come Jeanne Modigliani. Ti guarderei con occhi da moglie, ma già so che non puoi ricambiare. Lo vedi in due schizzi vermiglio che sporcano l'orlo della mia vestaglia? È volutamente in disordine, è voluttuosa nel suo gravitare. Giacermi vicino alla fronte e formare le ombre sulla cervicale, sì, ma ora che devo ballare, come cicale si scosta dal bordo. E pare così naturale nel suo fluttuarmi sull'omero, e pare che siano volute le forme strane, le ombre umane, le labbra rame. Non sia poi colpa dei colpi di tosse, la goccia di punta che vedo colare. Tu non sai parlare, non sai più parlare. Il sangue ti macchia le mani, rimane la sola colonna sonora, un labiale, le sillabe restano in gola, pesa la gola, pesa la corda vocale. Tu non sai parlare, non sai più parlare. Il sangue ti macchia le mani, rimane del suono soltanto il labiale. Se un mare di sillabe affoga la gola, oggi non sa come farne parole. E mi dici di stare fermo, ma io ferma non so stare. Di accarezzare la tempia dietro la tenda, ora che fare maestrale e mostrare un sorriso da ebra. Non puoi mentire alla carta, io immobile come una meba che attendo la frangia nascosta alla falda larga. E mi dici di stare calma, ma io calma non so stare. Ferma a guardarti asimare, tossire, sbracciare, dipingermi tra ti con la tua bile, occhi che fumano, lava nel mare. E mi dici di aspettare, di attenderti cauto un momento, mutare da musa infelice in una cornice ed essere parte dell'arredamento. Tu mi dici di aspettare, dovresti finire per tempo, ti servo fin quando ti osservo disteso nel letto di questo ospedale. Ma tu vedi cose che gli altri nemmeno per sogno, nemmeno per sbaglio, i colori, le rughe, il passire dei fiori, ma non un mio occhio, non un mio sguardo. E tu vedi cose che gli altri nemmeno per sogno, nemmeno per sbaglio, i colori, le rughe, il passire dei fiori, ma non un mio occhio, non un mio sguardo. E non stai respirando, l'aria che resta è poca, la luce refioca, domando quanto potrò starti accanto riempiendo lo spazio di quella. Tu non sai parlare, non sai più parlare. Il sangue che macchia le mani, rimane la sola colonna sonora, un labiale, le sillabe restano in gola, appesa alla gola, appesa alla corda vocale. Tu non sai parlare, non sai più parlare. Il sangue ti macchia le mani, rimane del suono soltanto il labiale. Se un mare di sillabe affoga la gola, la voce non sa come farne parole. E io posso solo aspettare, come formiche, attendere cauta un inverno in cui diventare io stessa vento, io stessa maestrale, sapendo che non ho imparato a volare. Non avrò occhi che il tempo potrà ricordare, né tempie, né spalle, né labbra rame, né mani posate sul legno divelto. E che per quanto vale, trovandoci un senso, Io sarò sempre uguale, sempre uguale. Ci sarà sempre il maestrale. Sempre il maestrale, io sarò sempre vento. Sempre vento, sempre uguale. Io sarò sempre uguale. Io sarò sempre uguale ad adesso. Dio, yeah, grazie. Questa era Jeanne Buterne. Prossimo passaggio possiamo deciderlo noi. Allora, poi prima fa finta di fare l'agenzia viaggi, poi dice al microfono il prossimo passaggio possiamo deciderlo noi, poi mi dice all'orecchio vorrei andare a New York. No, ma io e lui, non oggi, cioè un giorno, prendere un aereo e andare a New York. Quindi dovremmo prenotare prima o poi. Vabbè, insomma, ve l'abbiamo già detto, oggi non è il 10 giugno 2022, è il 26 maggio del 2011, hanno arrestato Racco Mladic dopo 15 anni di latitanza, Miles Davis avrebbe compiuto 85 anni, lo sapevi anche tu, perché te l'ho detto prima, e quindi tra 17 ore Gil Scott Heron verrà trovato morto. Abbiamo appena registrato questo brano, abbiamo appena fatto un video di questo brano, quindi se volete ascoltarvelo, un video molto particolare, perché Gil Scott Heron sosteneva che la rivoluzione non passasse in televisione. E noi ci siamo rapportati al fatto di fare un brano su Gil Scott Heron e di sceglierlo come singolo e di fare un videoclip per uno che credeva che la rivoluzione non passasse in televisione. Fare un videoclip sarebbe stato un po'. E allora abbiamo girato la questione in un altro modo e vi invito a vedere il nostro video, si chiama A Memoir. Quindi, tra 17 ore Gil Scott Heron sarà morto, per ora però. Per ora però. Addosso un trench americano, fumo di Londra e un punch cubano nella mano. Ha una sigaretta spenta in bocca, aspetta di sputare fuori fumo dall'ombra. Sopra il ripiano i resti di un French toast e dagli angoli bui la polvere si alza dal piano Rhodes e rompe gli schemi del Feng Shui. Lui non ha più fame. Da almeno un lustro ha esaurito gli stimoli dell'Harlem. Sono settimane che esaudisce senza gusto tutto il mare di stimoli del suo harem. Resta giusto quell'odore di catrame nella stanza che alleggia. Quello non scompare in un amen, mentre beggia entra abbastanza luce dai buchi delle persiane per illuminare il ciarpame che fa da mare al suo cargo, disperso al largo del letto dell'Hudson. Lo scranno su cui poggia, adesso, ha addosso l'aria di un animale in letargo con un taglio all'appresto. E lo scettro che gli occhiude il palmo è un plettro con cui accarezza sussurrando una Gibson Les Paul dell'84 di Jackson e direttamente da Jackson, Tennessee. Sì. Suona The Payback di Brown. Le note zampillano e si uniscono al sudore sulla sua fronte, lo riportano in prima linea al fronte ai tempi della Motown e canta, dandosi là 440 e ripassando a memoria i vari throw-up di Manhattan come un mantra si ripete. Senti le note che pulsano, ascolta il braccio che freme, non vedi le vene maiuscole fungono da canto di nuove sirene. Ascolta le note che pulsano, non senti il braccio che freme, non vedi le vene maiuscole fungono da canto di nuove sirene. Ascolta le note che pulsano, non senti il braccio che freme, non vedi le vene maiuscole fungono da canto di nuove sirene. Ascolta le note che pulsano, non senti il braccio che freme, non vedi le vene maiuscole fungono da canto di nuove sirene. Mentre l'accende prega, sa che può farsi da parte ora che la sua arte è un anthem e si è passati a Obama, da Reagan con buona pace delle Black Panthers. Quel salotto è una sala d'attesa. Tutto tace tra i vicoli della grande mela. Ormai è sera, alla mano destra che gli trema in balia di onde che riflettono frame di ombre rosse di John Wayne, impedendogli di riprodurre Fate di Wonder o una solo qualunque di Coltrane. È un uomo solo. Un uomo solo. È un uomo solo. Un uomo solo. È un uomo solo. È un uomo solo. È un uomo solo. Un uomo solo. Un uomo solo. Un uomo solo. Un uomo solo. Un uomo solo. Un uomo solo. A pezzi. è solo pezzi di un uomo cosciente che solo porto da prode di ritorno dal vecchio continente, sia la rivoluzione che ha nella mente e non sente le note che pulsano, ne ascolta il braccio che freme, non vede le vene maiuscole fungono da canto di nuove sirene accanto ai lividi, preme ai brividi, beve, crede che i vivi dei vivi ci siano due strade, che siamo proclivi a farci guidare da spiriti altri da quelli dell'altro. Ascolta le note che pulsano, senti il braccio che freme, non vedi le vene, non vedi le vene, ascolta le note che pulsano, senti il braccio che freme, non vedi le vene, non vedi le vene, non le vene. Ma adesso che anche le note sono blu notte, le sue vene sono veneri rare, sono muse da venerare ai cieli più neri di maggio, intonando al paesaggio le strofe di Venus de Milo, di Davis. Ascolta le note che pulsano, senti il braccio che freme, non vedi le vene, non vedi le vene, le vene. L'ultimo sole è calato dal tramonto, è un sole in minore, non sente nessuno, le sole sirene che cantano adesso sono quelle del 911. L'ultimo sole è calato dal tramonto, è un sole in minore, non sente nessuno, le sole sirene che cantano adesso sono quelle del 911. L'ultimo sole è calante al tramonto, è un sole in minore, non lo sente nessuno, le sole sirene che cantano adesso sono quelle del 911. Grazie. Yeah. Allora, devo ammettere, grazie, di aver completamente perso, di essermi completamente perso nel nostro viaggio e di non avere piena coscienza delle tappe che mancano. Qualcuno di voi si ricorda qualche tappa che manca? Alessandra d'Egitto, ovviamente, non so perché, Alessandra d'Egitto. Manca l'Andalusia. E Alessandra d'Egitto. Direi che possiamo risolvere il problema in questo modo qua. Per andare ad Alessandria d'Egitto bisogna passare dalla... No, cioè praticamente vi racconto questa cosa. Nel sud della Spagna, all'inizio del Novecento, c'è una taverna. Questa taverna è accanto a un leccio, che è un albero. Non si sa mai. Ed è pregna la taverna di un caldo secco. C'è il deserto lì di fianco che si mangia tutto l'ossigeno e poi sputa fuori il libeccio. Il libeccio è un vento. Siete preparati. È un vento, non solo un vento, è un vento che porta sabbia dalle dune e in poche ore la posa tutta sul pavimento della taverna, che vi dicevo prima, che è fatto un po' come questo di saliva e sudore. E dentro la taverna, tra i pochi reduci a sera, deboli anime in pena, c'è una gitana indiscreta con una gonna di seta che con la voce disseta chi beve grappa gallieca. La abita un'indole differente, sembra più demone che ispiratore, è indefinibile, lo chiamano duende. Non lo si invoca, può solo apparire. Il duende non lo si affronta, può solo bruciare. E lei lo attendeva da molte lune, poi d'un tratto pulì col polso il tratto di rosso rimasto al drappo e allora rimase nuda, sola, donna andalusa, respinse l'angelo a Damasco, diede un calcio alla musa e la paura si fece fuoco nelle vene della cantaora. Allora, ora canta, pastora, canta, canta ora. Sole, madre, tempo, dal vento, risputati dal fuoco del senza i baci di madre, ma donati dal tempo, asciugati dal vento, risputati dal fuoco del senza i baci di madre, ma donati dal tempo, asciugati dal vento, risputati dal fuoco del senza i baci di madre, ma donati dal tempo, asciugati dal vento, risputati dal fuoco del sole. Se ti capita, prova a guardare diretto nel buio degli occhi la nigna dei pettini, e se ti venisse da chiederle di cantare. Se ti capita, prova a guardare diretto nel buio degli occhi la nigna dei pettini, e se ti venisse da chiederle di cantare. Se ti capita, prova a guardare diretto nel buio degli occhi la nigna dei pettini, se ti venisse da chiederle di cantare. Se ti capita, prova a guardare diretto nel buio degli occhi la nigna dei pettini, se ti venisse da chiederle di cantare. Prima dalle da bere, c'era polvere al posto dell'acqua nel corso del mondo, il calore asciugò le lenzuola del letto che adesso rifrange le dune del lungo deserto andaluso, e dall'ultimo sogno risuonano i canti di un altro pianeta che conserva comunque ogni particolare del mondo in cui vivono tutti, in cui pensano tutti, sentono tutti, però ascoltano in pochi la voce sospesa per cui non c'è udito, la gola rabbiosa che ospita il demone abituato all'ombra, normalmente abitante dell'oscurità delle case, inquilino delle profondissime curve di vene d'arteria, ubriaco dei fiotti di sangue che solo sai mettere il cuore dalle gradazioni più scure, dal pungentissimo, pungentissimo odore. Se ti capita prova a guardare diretto nel buio degli occhi la nigna dei pettini, e se ti venisse da chiederle di cantare. Se ti capita prova a guardare diretto nel buio degli occhi la nigna dei pettini, e se ti venisse da chiederle di cantare. Se ti capita, prova a guardare diretto nel buio degli occhi la nigna dei pettini, se ti venisse da chiederle di cantare. Se ti capita, prova a guardare diretto nel buio degli occhi la nigna dei pettini, se ti venisse da chiederle di cantare. Prima dalle da bere. Quanto le trema la mano infantile spostando il bicchiere ricolmo, quando lo porta alla bocca per berlo in un unico sorso dal bordo, e dopo un respiro profondo la grappa gallieca prosegue il suo corso, ne muta la forma del corpo, le solca le piaghe del volto, lei scosta la gonna di seta dai piedi, poi s'alza d'un colpo nel palco di mani che battono e mordono, invocano i demoni e canta il midollo squarciando pareti, squarciando pareti, con voce di donna, dando una forma a ciò che distrugge per poi distruggere ciò che è una forma, dando una forma a ciò che distrugge per poi distruggere, per poi distruggere ciò che è una forma, ciò che distrugge per poi distruggere, per poi distruggere ciò che è una forma, ciò che distrugge per poi distruggere ciò che è una forma. E dall'alto di un corpo amorfo e nascosta da un volto in supplica vede la spira del proprio midollo prendere forma e poi distruggerla, e si alzò come una pazza struccata prefica medievale, e si scolò in un sorso grappa, e dopo prese a cantare, ma senza voce, senza tempo, senza respiro. Continuano a mordere tempi 18. di lontanissimi avi, quelle maniche larghe di drappi, furono stracci pieni di rami, i teatri gremiti di gente, furono bettole da criminali, tutte le mani cominciano a mordere, tempi 12 ottavi, come lancette che inciampano nei quarti degli orologi, con le lancette che inciampano si può comunque tenere il tempo. Si può comunque tenere il tempo, si può comunque tenere il tempo. Le mani continuano a mordere, tempi in 12 ottavi, come le vene che pulsano ma di lontanissimi avi. In quelle maniche larghe di drappi furono stracci pieni di rami, teatri gremiti di gente furono bettole da criminali. Tutte le mani cominciano a mordere, contano 12 ottavi, con le lancette che inciampano nei quarti degli orologi. Con le lancette che inciampano si può comunque tenere il tempo. Lascia che inciampino, lascia che inciampino, si può comunque tenere il tempo. Fin quando il vento cancellerà l'orma del passo sulla sabbia, il vento cancellerà l'orma del carro che solca la duna, della carena nell'acqua di schiuma, come del sole che brucia la schiena. Comunque tenere il tempo. Il vento non lo cancellerà, si può comunque tenere il tempo. Il vento non lo cancellerà, no? Il battito del passo, il carro e la carena faranno esplodere il diaframma nell'inarcare la schiena. Madre, tempo e vento e fuoco del sole. Madre, tempo e vento e fuoco del sole, madre, tempo e vento, fuoco del sole, madre, guarda negli occhi, tempo, la linea dei petti, vento, belle da bere, fuoco del sole, falla cantare, madre, guarda negli occhi, tempo, la linea dei petti, vento, dalle da bere. Il duende è difficile da invocare. Infatti. Siete tipo quei rapper che si incastrano i cavi? Ci hanno chiesto l'ultimo spettacolo e noi abbiamo detto no, noi siamo dei poeti. Hai risposto così? Certo. Okay. Va bene. Ok, siamo arrivati all'ultima tappa del nostro viaggio, che è un viaggio un po' sgangherato, come avete visto, poi in parte addirittura l'avete scelto, quindi... E andiamo ad Alessandria d'Egitto. Andiamo ad Alessandria d'Egitto perché un viaggio non sempre deve dare corda a una trama, no? Noi crediamo che un viaggio a volte si possa perdere, poi tornare, spostarsi di un'ora, di un anno, di secoli in secoli. Non sempre ricorda un viaggio, come Patrizia. Parla al passato, a volte al futuro delle altre. Non è una retta che corre su un piano, dovete immaginarvi più un filo di spago intrecciato in un muro. Ma quando anche il tempo non scorre più a tempo, e quando anche il tempo è disorientato, se c'è qualcosa che aiuta una storia, è avere ad appiglio il cielo stellato, ora, che possa intonarlo un'ultima volta, che possa osservarlo dal proprio selciato, che possa parlarci agli dei dell'Olimpo, che possa cantare la propria voce alla cometa rossa del grande cantante degli Area, Demetrio Stratos. Yeah. Cometa, guarda quanta gente, cometa, sanno anche tacere, cometa, vederli tutti insieme, cometa, mi viene immaginare, cometa, illuminati a giorno, cometa, comincino a cantare. Cara cometa, la lettera bianca che non ti manda non ha una struttura. Da tempo parlare alla carta mi pare vano quanto alle solite mura, le quattro mura di casa e del foglio, angoli retti, gli angoli retti non hanno ragione. Io voglio mandarti una lettera tonda che quando grido riverberi bene per ore. Io voglio voglio mandarti una specie di grotta, io voglio mandarti una bocca, io voglio mandarti una bocca, io voglio mandarti una bocca con dentro una voce, sì, voglio mandarti una voce, io voglio mandarti una voce, io voglio mandarti una voce, io voglio mandarti una, voglio mandarti una, voglio mandarti una voce. 5 del mattino, fermo sulla porta, scendo a patti con l'autunno. L'arco della luce fa fatica ancora a illuminare ciò che fanno. Scalcinati nei turbini come api in mezzo all'immondizia. Ubriaconi musicisti, barcollando con lentezza, donano alla via quella colorazione contagiosa. Mattutina litania di inerzia, rumorosa ed operosa. Io non ho mica più necessità di raccontare chissà quale cosa. Io con la mia voce posso trasformare in oro ogni cosa che dica. Io con la mia voce posso immaginare di non dire niente. Loro con parole loro possono soltanto predicare tutto. Io con la mia voce penso a dare vita a tutto quello che rimane, tutto quello che rimane, tutto ciò che dalle loro bocche cade, perché non hanno la voce, non hanno la voce, non hanno la, non hanno la voce, ma dicono parole. Non hanno la voce, non hanno la voce, non hanno la, non hanno la voce, ma dicono parole. Non hanno la voce, non hanno la voce, non hanno la, non hanno la voce, ma dicono parole. Non hanno la voce, non hanno la voce, non hanno la, non hanno la voce, ma dicono parole. Commenta, commenta, commenta, commenta, commenta, ma dicono parole. Non hanno la voce, non hanno la voce, non hanno la, non hanno la voce, ma dicono parole. Non hanno la voce, guarda quanta gente. Non hanno la, commenta, la voce, ma dicono parole. Non hanno la voce, non hanno la voce, non hanno la, non hanno la voce, ma dicono parole. Non hanno la voce, non hanno la voce, non hanno la, non hanno la, non hanno la, non hanno la, cometa, non hanno la voce, cometa, non hanno la voce, non hanno la, non hanno la voce, le palpebre, cometa, sì che finalmente veda, cometa, liberami le mani, cometa, sigarette cellulari, cometa, aprimi le labbra, cometa, scucimi le palpebre, cometa, liberami le mani, cometa, aprimi le labbra, cometa, aprimi le labbra, cometa, aprimi le labbra, cometa, chiudile al poeta. Demetrio Stratos, sempre nel nostro Pantheon. Da un po' di tempo, visto che è la decima edizione del Premio Dubito, a cui non saremo mai abbastanza grati, e da un po' di tempo abbiamo fatto questo suicidio di mettere alla fine del nostro concerto, è veramente finito poi, giuro. E abbiamo fatto questa pazzia di mettere un pezzo di Abe alla fine, perché uscirà prima o poi un disco prodotto da Sospè e dalla famiglia Dubito, e dalla famiglia, diciamo, non solo biologica Dubito, e con tutti i vincitori del Premio Dubito che reinterpretano un suo brano. Noi l'abbiamo fatto, il brano si chiama Frustrazione, ci si addice molto, e ci proviamo, ed è a 200 bpm, esatto, quindi, ed è alla fine del concerto, un po' di caricanza generale, Giunis. No, soprattutto durante, capì, perché fa così, vabbè, prima di schiattare sul palco potrebbe succedere. Vi invitiamo tutti il 18 giugno a Bologna, noi veniamo da Bologna, come si può leggere dalla maglia di Ricky. Il 18 giugno presentiamo una neonata etichetta di poesia, che, di poesia orale, di spoken word, di spoken music, che abbiamo appena fondato a Bologna, che si chiama ZPL, emanazione del collettivo Zopalco, di cui facciamo parte. Il 18 giugno sera, sabato sera, ci vediamo sui colli di Bologna in un contesto pazzesco. E siete tutti invitati. Presentiamo i primi tre progetti di spoken word della nostra etichetta. Rock and roll. Ora frustrazione. Questo perché, ragazzi, a me diceva, ragazzi di piazza, saremo noi, sto giro non basta, chiudere ste storie dentro la gran cassa come stiamo facendo. È frustrazione con la A maiuscola, un tiro e passa, la distante da chi a testa bassa pensa passerà, noi, no New York, noi, San Pietrini e pizza, pasta pizzo, manganello, abbracci, chiusi in una rizza, sotto i tigli di Rimbaud, occhi Bordeaux, sto in after, pupilla pixel mo, ci ripigliamo le piazze. È frustrazione se passiamo dall'avere il mondo stretto nelle tasche ad averle bucate, noi nati schedati col presente a rate, è la stessa frustrazione che regge le barricate. Masca, c'ho la calma, passa dall'assenza di speranza alla forza di mettersi in marcia, sul foglio il silenzio del mare all'inizio degli anni 90, è un figlio che scalcia, frustrazione santa, scaccia via nevrosi dalle braccia, vita satura, balliamo sul ghiaccio, soldi in carta straccia, è un cielo che schiaccia, sempre più in basso, sempre più in basso, l'arrembaggio, stiamo ai poli estremi antartide, ma siamo quelli pronti al peggio, noi amanti della danza del sole, ma sotto la grandine, qua va tutto a fondo, welcome to Atlantide. Frustrazione, figli della pioggia, l'acquazzone viene dalla fogna, roll back, don't stop, non lo puoi fermare, il mondo ti sorride mentre affonda e canta sulle dita sul grilletto e sparano anche i media, strage social network, la rete delle strade è ancora l'ultima trincea, c'è chi chiede pace, chi coltiva il suo conflitto e canta in coro, na na na na na, balliamo sulle fosse con la tosse e la sete di sempre, nelle ombre rimaste al buio a preparare crepe nella quiete, preparare crepe nella quiete, preparare crepe nella quiete, preparare crepe nella quiete, a preparare crepe nella quiete, preparare crepe nella quiete, preparare crepe nella quiete, a preparare crepe nella quiete, sempre disturbati dalla quiete. Ehi. Ehi, piazza della pazzia, eravamo in mille mila, se parte la carica, risponde l'adrenalina, mille little boy come la bomba di Hiroshima, spingi consapevole che nulla sarà come prima, tu studi, lavori, ma ogni mese è un problema, se chiedi soldi tuoi lo fai a testa china, aggrappato alla schiena, l'ossessione taccheggia della frustrazione stessa, urlare fa la cosa giusta, apri i polmoni, nel tempo di una sigaretta fumata di fretta, ho preso le mie decisioni, dalle trincee dei nostri errori all'Italia degli orrori, all'affermazione ma ti aspetti che ci fa c'hanno fuori, cresciuto in fretta dentro gli anni 00, siamo musica bastarda come Londra 00, noi modelliamo il mondo come fumo 00, mentre balliamo sul tetto sotto questo cielo nero, giro una compila nel vecchio lettore CD, Atari Teenage più Rage Against the Machine, dentro tutto si mixa melting pot, techno punk, rock e bab, rap, radici rock e lo, io amo l'arte, giuro, ma sto male nei musei, giù le mani dai cortei, giù le mani dal futuro, figli di un'Europa con condannata a morte, facciamo festa sul Titanic e poghiamo urlando più forte! Frustrazione, figli della pioggia, frustrazione, figli della pioggia, l'acquazzone viene dalla fogna e frustrazione, figli della pioggia, l'acquazzone viene dalla fogna, roll back, don't stop, non lo puoi fermare, il mondo ti sorride mentre affonda e gioca con le dita sul grilletto, sparano anche i media, strage social network, la rete delle strade ancora l'ultima trincea, c'è chi chiede pace, chi coltiva il suo conflitto e canta in coro, na na na na na, balliamo sulle fosse, con la tosse e la sete di sempre, nelle ombre rimaste al buio, a preparare crepe nella quiete, a preparare crepe nella quiete, a preparare crepe nella quiete, a preparare crepe nella quiete, preparare crepe nella quiete. Sempre disturbati. Grazie Marco, grazie Paolo, grazie Clara, grazie raga, Box. Grazie a tutti. Rock and roll per tutti, grazie, grazie Riccardo. Un grande applauso, è una serata bellissima ragazzi, facciamo un applauso tipo un roll applauso per dall'inizio Mora, cioè dall'inizio, cioè dal, non dall'inizio, Yaraki. Allora, dall'inizio. Yaraki, fortissima. Non so se sia ancora qui. Spero che continui assolutamente a spaccare. Il buon Carlo Corallo, rock and roll. Seba Mora. Grazie, fratello. Noi siamo in mezzo palco. Grazie, ci vediamo il 18 a Bologna. Convinti. My ring, kiss my knuckle, never. Scoop up chicks at the shows and take them home and blow money to spill. Dream the impossible dream, bloodstream. Seems it's polemic, throw up, toe up, from the flow up, flow up. Smoking in the bathroom, getting kicked out of school. Car like a traffic, a squirrel little varmint. I'm the family walking through the district of garments. Downtown Los Angeles, gates of heaven. Older people, they just wanna have fun. The stupid suckers are so fucking temporary. We're walking down the street, but you can't beat the beat, the beat, the beat, the beat. You put the tape in and turn the music up. You roll down the window and then you stick your finger up. When I was a kid, I never had any friends. Walrus one, start making some money. Pen and paper, two parents yelling, and my diapers reeking days old. Never too cool to take a request. Mom's alright to get shit off my chest. Music started 74, standing too close, but I'm world away. Touch the mic, it'll burn your fingers. But I'm down when the stench lingers. Old and rusty, still brand new. Always coming through with the shapes of the crew. Girls, they just wanna have fun with someone and find a man to support their kids. People just wanna have fun. All you suckers are so fucking temporary. Me and my crew walking down the street. You can't beat the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat. Oh, how I hate the stupid look in your eyes. Try to understand me, but they don't care. Put up your ones, people say practice makes perfect, not worth it now. Throw a bottle on the ground to make it sound world renowned. Rhythm to the rhythmless. Shame to the shameless. Money to the moneyless. And names to the nameless. Yeah. People, they just wanna have fun. Suckers are so fucking temporary. Me and my crew walking down the street, but you can't beat the beat, the beat, the beat, the beat, beat.

Light dog light. Still dog still. Light dog light. Still dog still. Light dog light. J'irai au Japon.